Allora, la locandina è lì che parla. Grazie. Grazie. Allora, ai primi di aprile, la borsa di New York in due giorni ha bruciato 5.000 miliardi di dollari. Tutte le borse hanno subito deprezzamento dei titoli in listino. Apparentemente questi avvenimenti non hanno avuto, a partire dagli Stati Uniti, riflessi con fallimenti, licenziamenti e aumento dell'inflazione. Ma torniamo a numeri certi che ci ricordano il debito pubblico degli Stati Uniti, che supera per la prima volta i 34 trilioni di dollari. I rapporti di debito e credito internazionali e i mutati equilibri geopolitici globali compromettono il potere del dollaro. Il debito americano è fuori controllo. C'è un enorme indebitamento Stato centrale, degli stati federali e dei singoli cittadini, tutti legati a un'immensa bolla che, per allontanare il giorno del giudizio, ne prepara una di più vaste proporzioni. Il capitale finanziario determinava concentrazione di investimenti per l'industria, che a sua volta estraeva plusvalore alimentando l'accumulazione. Oggi questo capitale non ha la possibilità di valorizzarsi nella sfera della produzione, perciò è destinato a rimanere fittizio ed essere cancellato, in quanto la pratica esorcista tramite il trasferimento di valore in creazione di valore si scontra e si scontrerà con le bolle. L'agitazione convulsiva di Trump disvela il vero stato dell'arte del capitalismo e mette in luce la debolezza del sistema nel cuore della principale potenza mondiale. Ma se Atene piange, Sparta non ride. L'Europa, il più grande mercato del mondo, detiene il 32% del debito americano e, come risposta alla guerra dei dazi e al disimpegno americano nella difesa con la NATO, la quale, portata alle estreme conseguenze, vede all'orizzonte la svalutazione del dollaro, che fa l'Europa? Propone l'iniziativa Rearm Europe, cioè armiamo l'Europa. 800 miliardi per finanziare le esigenze di difesa del blocco europeo, una misura che consentirà agli Stati membri di aumentare le spese per la difesa senza incorrere nelle sanzioni per disavanzi eccessivi. Abbiamo già visto che ogni nazione europea risponderà all'appello di Ursula von der Leyen, ognuna a modo proprio, con la Germania in testa. L'aumento delle spese militari determinerà surplus finanziari per i fondi di investimento. La faccio brevissima, nel senso che ho cercato di far presente, poi loro la faranno sicuramente molto meglio di me, entrando più in profondo, ma io ho cercato di far presente una serie di passaggi che consentiranno di avviare una discussione. Ma prima di chiudere e passare la parola a Massimo e Maurizio, partiamo con la seconda puntata di quel corto che spiega veramente come si dovrebbe fare con la banca. Nella puntata precedente. Ma davvero voi ancora rapinate a mano armata? Adesso ci sono i derivati, il credito al consumo, il tasso a 7,65. Spiegaci un po' questa storia di derivati. Aggiotaggio. Piamose una banca. E piamose la mo prima che lo faccia qualcun altro. Lei mi deve spiegare che fine hanno fatto i soldi sul mio conto. Fino alla settimana scorsa c'erano 100.000 euro e adesso 18. 18 euro, com'è possibile? Sua consigliazione, signor. Ha letto il coso, no? Il coso? Che coso? Il coso, signor, come si chiama? Il coso, il prospetto informativo. Questa è una vergogna, eh? Questa banca è una rapina. Dovrebbe alzare le mani, per favore. E a presto. Prego, vado avanti. Devo parlare con il direttore. Ma chi? Con il libanese? Senza offesa. Ma lei è una scansagazzi. Se parla con il libanese diventa una scansagazzi, morta. Come si permette? Guardi che chiamo la polizia. Ma sai che qua non si sta a capire. Questo lo chiamiamo strumento finanziario. E mo te ne una consulenza, vattene, che se no te faccio male. Quello che fa per voi è un bel mutuo trentennale a tasso variabile. Mi sembra un'ottima proposta. E grazie al cazzo. Solo che ci vogliono le garanzie. Se no vi spaccamo tutte le mignolette. Ma sto a scherzare, sto a coglionare. E mica siamo gravattari. Ormai qui noi siamo una banca. E poi, oggi come oggi, esiste un ampio ventaglio di strumenti obbligazionari a garanzia di un prestito. È come la fideiussione. Eh no? Come tua moglie. Dimmi un po' una cosa. Quanti anni c'è sta bamboletta? 25. Dandy, mi scusi, il direttore vorrebbe vedervi tutti nel proprio ufficio tra un'ora per un briefing. Ma vuoi mettere col biardo vero? Io questa cosa non... Perché sa giocare? Bufalo, dimmi un po', che c'è sta scritto sulla lavagna? Ma non vedi che sta a giocare? Ma perché mi devi sfare che stai cogliere a me? Fallo leggere a Dandy, no? Ah, allora dillo che non sai leggere. Ancora. Io so leggere, è che non mi va, quindi tappate quel cesso. Sta buono, te scallano. Te lo dico io che c'è scritto. Mo, so cazzi. Sì, perché mo la banca ce l'abbiamo, ma tocca piazzarla. Allora l'idea è questa, famo una specie di scalata. Bufalo, a te t'ho dato Banca di Roma e Credito Agricolo. Te da San Paolo e Monte dei Paschi. Te scrocchi, abbiamo Pippa Ribasso e Barclay. Ma... Io, Mediolanum e Unicredit. Com'è che la BCE la sta fuori? La BCE è del drago. Arrivano la BCE, sono bei sorti. Ogni cosa a tempo suo. Prima abbiamo se Roma, che davanti alla lupa pure i draghi chinano la testa. Andiamo a giocare. Allora, sì. Vado? Certo. Allora, l'ultima volta che ci siamo visti, Maurizio Novelli avrebbe dovuto essere con noi, però invece gli hanno chiuso l'autostrada e quindi ha dovuto ritornare anticipatamente verso casa. L'altra volta noi abbiamo cercato di trasmettere questo, di far passare questo messaggio, che tutto quello che noi leggiamo, vediamo succedere in questo mondo politico, finanziario, economico, chiamatelo come volete, al di là del folklore, al di là del fumo, al di là di tutto quello che è l'elemento, diciamo, superficiale, nasconde invece delle dinamiche molto importanti, molto essenziali, che ci hanno fatto dire l'altra volta che la maggior parte delle azioni intraprese da Trump sembrano più mosse della disperazione che in realtà mosse strategiche che siano, diciamo, anche nella loro nonostante siano contraddittorie, però rispondano a un disegno univoco. Nella realtà si procede per tentativi, si procede per approssimazione, ma fondamentalmente la situazione degli Stati Uniti, come diceva Marco, è una situazione oltre diciamo la possibilità di recupero. Però è chiaro che nessun impero di queste dimensioni se ne va senza disturbare o senza creare grandi onde d'urto. E come diceva Gramsci, quando un sistema muore ma non è ancora nato quello successivo, compaiono i mostri. E questo è un periodo di mostri, mostri sia a livello antropologico che mostri a livello figurativo nelle cose che stanno succedendo. C'è questa ormai palese dominio dell'ignoranza, per cui la maggior parte delle persone che si occupano di certi temi o hanno un'impronta ideologica talmente stringente da non allontanarsi dalla via che hanno scelto, oppure sono veramente sprovveduti e incompetenti, però sono chiaramente leali a un'idea, a un concetto, a una cordata. Se pensate che una delle ultime cose che avrete letto è la polemica con le grandi università, Harvard, Columbia, eccetera, eccetera, la ribellione di alcune, la sottomissione di altre. Ma se pensate che la segretaria del Ministero cioè il Ministro dell'Istruzione, nel momento in cui è stata intervistata sui programmi scolastici, ha detto bisogna che i ragazzi siano resi consapevoli delle potenzialità e dei pericoli non della AI o AI, ma della A1, A1, perché questa non aveva visto un documento e non era riuscita a capire che quella stanghetta stava per la I e non per il numero 1, per cui questa è la responsabile del Ministero dell'Educazione, tale signora McMahon. D'altronde Trump nella precedente amministrazione aveva scelto un'altra donna che si chiama perché sta bene purtroppo, che si chiama Betsy DeVos, la quale voleva smantellare il ministero stesso, il Dipartimento dell'Educazione. Poi vai a vedere chi è Betsy DeVos, e Betsy DeVos ha un fratello il quale è il fondatore nonché proprietario della Blackwater, quindi dei mercenari americani sparsi per tutto il mondo, quelli che fanno il famoso lavoro sporco o più sporco. Quindi poi cedo la parola a Maurizio. Il significato di questo incontro è dimostrare come alla fine il seguire la traccia del denaro è molto più interessante e produttivo che seguire la traccia dell'ideologia, la traccia di una direzione politica, la traccia di quello che è un dominio e un esercizio di potere, perché poi alla fine tutto quello che noi possiamo interpretare deve necessariamente fare i conti con i soldi. Ci sono, non ci sono, chi li ha, se c'erano e non ci sono più, chi li ha portati via, come sono stati distribuiti. Sentirete da qualsiasi politico di una certa parte, che proprio che non sia quella di cui stiamo parlando, che parlerà che il problema è la ridistribuzione, la disuguaglianza crescente, ma tutto questo ha una ragione che non è solo ideologica. C'è un discorso fattuale, che è che nel momento in cui io faccio venire meno delle risorse perché me le accaparro, poi quello che rimane da essere distribuito è molto poco. Il sistema americano è arrivato oggi a questa situazione perché dal 1971, fondamentalmente, come sappiamo e come abbiamo già discusso, gli incrementi di produttività che una volta erano distribuiti tra capitale e lavoro in un certo modo sono finiti praticamente a premiare la componente di capitale in maniera spropositata, e quindi nel momento in cui questo aumento di produttività, questa distribuzione di aumento di produttività ha preso questa strada, non è rimasto per salvaguardare o far finta di salvaguardare la middle class, la classe media, che poi non è una categoria sociale, più una categoria di tipo fascia di reddito, si è dato libero sfogo e libera circolazione al debito, a cui accennava Marco. In un sistema in cui la distribuzione di reddito e ricchezza avviene in questo modo, la soluzione è bisogna creare debito sia a livello individuale che a livello collettivo. Nel momento in cui, ne abbiamo parlato l'altra volta, la Apple sfrutta gli investimenti del governo americano nel settore della difesa e nel settore delle comunicazioni per diventare una società da trilioni di dollari e poi pagare tasse ridicole sia come aliquota che come quantità allo Stato stesso, significa che quei soldi che sono stati investiti per il bene della collettività, ma sono stati, diciamo, i benefici sono stati privatizzati e nulla è stato restituito. Quindi c'è questo impoverimento, questa depauperazione, che però in quale modo riesce a essere plausibile? Attraverso ulteriore debito, che avviene in n numero di modi. Io mi fermo qua, magari poi interveniamo in maniera dialettica, e direi che la spiegazione di che cosa sta dietro a questa politica dei dazi, oggi sì, domani no, a te sì, a te no, però dopo devi venire qui a dirmi cosa vuoi, io ti dico cosa voglio, eccetera, eccetera, si nasconde una situazione patologica molto profonda che dal mio modesto punto di vista non necessariamente finirà bene, ma è molto probabile che finisca o sia già finita male. Stiamo facendo finta che ci sia un sistema che resiste, ma a quale prezzo, ce lo racconta Maurizio. Grazie, quanto tempo ho? Non lo so. Io non è la prima volta che vengo qua, sono un esponente della Banca della Magliana dal 1984, per cui conosco molto bene il settore. Ho lavorato per tanti anni per le banche americane, quindi diciamo che so come ragionano e so cosa c'è dietro. Il punto è che in questo momento tutti si chiedono come mai l'America è impazzita, c'è un pazzo al governo, abbiamo qualcuno che vuole distruggere l'ordine mondiale, prima sparano, poi prendono la mira, come dice Biden, abbiamo degli improvvisati al governo. Non è assolutamente vero, non abbiamo degli improvvisati al governo, non abbiamo dei pazzi, abbiamo della gente che sa molto bene cosa vuole fare. Quindi togliamo dalla narrazione queste affermazioni che non vanno a cercare di capire perché l'America sta facendo queste cose, perché nessuno si è fatto la domanda: ma perché? Non è su nessun giornale, dal Wall Street Journal al Corriere della Sera, nessuno ha scritto perché l'America sta facendo queste cose. Ma questa è la domanda principale che tutti si dovrebbero fare. Il problema è che non si può rispondere a questa domanda in modo così, diciamo, diretto, esatto, perché verrebbero fuori delle cose che è meglio che l'opinione pubblica non sappia. Quindi, per raccontarvi cosa sta succedendo, vi devo raccontare la storia da 6 anni fa. La storia partirebbe molto prima, in realtà, partirebbe dalla crisi del 2001, scoppio della bolla della tecnologia americana, dalla caduta delle torri, che ha innescato un modello di crescita dell'economia americana impostato più sul debito che sulla crescita dei redditi reali, che ha portato poi alla crisi del 2008, anche quella una crisi da debito. Perché? Perché il modello di crescita era: compriamo le case a debito, no? Che poi il debito sia di pessima qualità, vedremo poi, e quello è stato, diciamo, il secondo capitolo che ha portato all'adozione da parte degli Stati Uniti di un modello di crescita capitalistica dove il reddito è un aspetto neanche secondario, è un aspetto che non deve esistere. Quindi tu, se vuoi comprarti la macchina, se vuoi comprare il televisore, ma se vuoi anche fare la spesa al supermercato, devi pagare le rate, perché noi su queste rate che tu paghi guadagniamo il 24% di tasso di interesse, anche se i tassi sono a zero. Vi hanno raccontato che abbiamo avuto i tassi a zero dal 2009 fino al 2020. Non è vero. I tassi a zero erano solo per le istituzioni finanziarie americane, per le grandi corporation americane. Per i privati americani il tasso di indebitamento sulla carta di credito è al 24%. Tutte le carte di credito sono incorporate nel North Dakota, dove non c'è legge contro l'usura. E quindi si può... Esatto, la legge contro l'usura in America proprio non è. Ma nel North Dakota poi è veramente liberi tutti. Quindi questo è il modello con cui l'America ha impostato il suo sviluppo negli ultimi 20 anni, 25 anni. Ora arriviamo al 2018, in particolare per noi, per gente che opera sui mercati finanziari come me, il 2018 è un anno estremamente importante, anche se per voi non dice probabilmente nulla, ma nel 2018 si crea un'importante crisi sul mercato interbancario. Il mercato interbancario è il mercato dove le grandi banche, le grandi istituzioni finanziarie americane e mondiali si scambiano i fondi di liquidità tra banche. Nell'arco di poche settimane si crea un buco di liquidità di 650 miliardi di dollari, che è una cifra importante, perché normalmente noi osserviamo giornate dove ci sono dei deficit di liquidità che poi vengono coperti dalla Banca Centrale, dalla Federal Reserve, dell'ordine di 15 miliardi di dollari, 30 miliardi di dollari. Quando si verificano degli scostamenti significativi da questi numeri, qualcosa sta per succedere. Quindi nel 2018 chi ha visto, chi sa leggere queste cose, che chiaramente non sono arrivate sui giornali, mi ricordo che il Sole 24 Ore mi aveva chiamato perché voleva capire cosa voleva dire sta roba, perché poi il problema è che la maggior parte della gente vede sta roba ma non sa neanche cosa c'è dietro, cosa vuol dire. E era uscito anche un articolo a cui avevo dato tutti i dettagli per spiegare cosa voleva dire. Probabilmente c'erano delle grandi istituzioni finanziarie nel 2018 in grande difficoltà. A quel punto la Banca Centrale Americana interviene a fare un massiccio intervento di liquidità per cercare di tamponare la cosa, e nell'arco di un mese e mezzo, la situazione rientra. La situazione rientra, ma non eravamo così sicuri, almeno alcuni addetti ai lavori che sanno come funzionano certe cose. Vi dico che il 99% degli operatori dei mercati finanziari guarda solo la borsa, che è quella che non sa niente di cosa succede nel sistema finanziario. Gli operatori degli equity market, dei mercati azionari, sono gli ultimi che sanno cosa succede nell'economia, sui mercati della liquidità, sul mercato dei tassi, sono gli ultimi, ok? I primi che sanno che cosa succede sono quelli che lavorano appunto su segmenti di mercato molto tecnici che voi non sapete probabilmente neanche che esistono. Quindi arriviamo al 2019, a fine anno si verifica un'importante caduta dell'indice della borsa americana, ha perso circa il 18% nell'arco di una settimana, e interviene immediatamente il ministro del tesoro, Steven Mnuchin, che era il ministro del tesoro del governo Trump, allora stiamo parlando del governo Trump, dicendo che non ci sono rischi di recessione e che non c'era una giustificazione per questa caduta del mercato. La Fed, la Banca Centrale Americana, fa un altro colossale intervento di salvataggio. Siamo venuti a sapere soltanto un anno fa che la dimensione di quegli interventi è stata di quasi 4 trilioni di dollari, 4 mila miliardi di dollari. E questo è avvenuto tra il 2018 e il 2019. Questa cosa è emersa perché Elizabeth Warren, una senatrice americana democratica, ha voluto a tutti i costi fare un audit della Fed. quindi ci sono stata una pressione bestiale da parte della Banca Centrale Americana per evitare questo ODI. Vabbè, non voglio raccontarvi nel dettaglio queste cose, magari ve le racconto poi in un altro momento, però 4 trilioni di dollari, per darvi un'idea, nel 2008 ci hanno detto, che poi non era vero, ma ci hanno detto che l'intervento era stato di 2 trilioni di dollari. Questo è solo per darvi un paragone, no? Quindi vuol dire che la situazione era estremamente pesante, no? Che cosa era successo? Come mai siamo arrivati in una situazione così drammatica nel 2018-2019, dove il sistema ha rischiato un'altra crisi finanziaria? Come mai? Perché? Perché gli americani hanno vissuto per 14 anni con i tassi a zero, e la finanza americana, se gli regali soldi, fa qualsiasi cosa possibile e immaginabile per guadagnarne altri. Se tu dai tassi a zero all'investment banking, questi si inventano qualsiasi cosa che rispetto al 2008 fa impallidire. Chiaramente queste cose non si dicono, nessun politico americano, né tantomeno gli esponenti della Banca Centrale Americana, nel 2018, nel 2019 potevano venire a dire in televisione che l'America aveva creato un altro 2008. Non si poteva dire. Non si poteva dire e non si può dire. Deve essere tenuto nascosto in tutti i modi. Quindi che cosa succede? Noi al 2019 siamo alla vigilia di un rischio di crisi e il grandissimo colpo di fortuna è il Covid. La pandemia giustifica colossali interventi di sostegno all'economia che coprono tutti i buchi che galleggiavano nel sistema nel 2018-2019. Quindi l'economia americana viene inondata di soldi perché era giustificato farlo. Se non ci fosse stato il Covid, qualcuno avrebbe dovuto andare a dire al Congresso che bisognava iniettare 10 trilioni di dollari nell'economia per salvare il sistema finanziario, e lì sarebbe venuto fuori un casino. Ma siccome è arrivato il Covid, non c'era motivo di andare a chiedere al Congresso un'autorizzazione a fare colossali interventi nel sistema. Fantastico. Che cosa si è creato in questi anni, quindi, no? Io ho fatto diversi convegni su questo punto, per addetti ai lavori prevalentemente, e vi do dei numeri. Noi nel 2008 siamo saltati su, c'erano in circolazione 2 trilioni di dollari, solo per darvi una dimensione. Voi sentite parlare di trilioni di dollari, tenete conto che il PIL americano vale 24 trilioni di dollari oggi, ok? 24. Noi nel 2008 abbiamo rischiato il collasso del sistema finanziario mondiale su una crisi che ha colpito 660 miliardi di dollari di subprime, di mutui subprime. 660 miliardi di dollari. A quei tempi il PIL americano era intorno ai 16 trilioni di dollari. 660 miliardi rapportati a 15-16 trilioni di dollari. Se noi oggi andiamo a sommare tutto il credito a rischio speculativo, non sto parlando di tutto il credito, sto parlando di solo quello speculativo, cioè il credito speculativo è tutto quello che c'è in circolazione sotto forma di prestiti o sotto forma di bonds, obbligazioni, credito cartolarizzato, che è stato erogato a soggetti che non sono in grado di pagare. Benissimo, la dimensione oggi di quella roba lì è 12 trilioni di dollari, il 50% del PIL americano. Noi siamo saltati nel 2008 su 660 miliardi di dollari, oggi abbiamo una mina vagante da 12 trilioni di dollari che non sappiamo quante perdite ci sono lì, ma ci sono. Quindi che cosa succede? Arriva il Covid, buttiamo dentro un intervento, il più grande intervento di sostegno all'economia fatto neanche durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è stato un intervento così, solo per darvi l'idea. Quindi succede questo, l'economia rimbalza decisamente nel 2021 e nel 2022 fino a marzo, aprile del 2022, grazie a questa colossale iniezione di liquidità l'economia rimbalza, ma nell'estate, nell'autunno del 2022 comincia a rallentare di nuovo. Per cercare di evitare una ricaduta, il governo americano comincia a spendere nuovamente soldi. Quindi dopo l'intervento fiscale per salvare l'economia dal Covid, l'economia americana ogni anno butta dentro ufficialmente 7,5 punti di PIL di spesa pubblica. Tenete conto che noi in Europa, quando buchiamo il 3, c'è lo scandalo generale perché interviene l'Europa e siamo fuori dai parametri di Maastricht, no? Lì ogni anno 7-8 punti di PIL, che sono sottostimati, perché questi 7-8 punti di PIL calcolano solo l'intervento fiscale del governo federale, governo centrale. Poi ci sono gli interventi fiscali dei singoli stati americani, che erano però altri 2,5 punti di PIL. Quindi l'America, nella sostanza, ha fatto negli ultimi 3 anni 10 punti di spesa pubblica costante in un'economia che loro hanno sempre dichiarato in crescita. Ma nessuno si è fatto la domanda come mai un'economia in crescita avrebbe bisogno di 10 punti di PIL di stimolo fiscale, perché qui le domande non si fanno, si leggono le notizie ma nessuno si fa le domande, no? Ma neanche nel mio settore, no? La cosa paradossale, quelli che fanno il mio lavoro non si fanno la domanda. Vabbè, non voglio sentire la risposta. Perché non vogliono sentire la risposta. Quindi che succede? Ma perché tu spendi 10 punti di PIL se dici che l'economia cresce del 2,5%? Non dovresti farlo. Quindi chi fa un'analisi macroeconomica di da dove arrivano quei 2,5 punti di PIL scopre che il 90% di quei 2,5 punti di PIL di crescita che l'America ha messo a segno negli ultimi 3 anni arrivano tutti alla spesa pubblica. Senza la spesa pubblica il PIL era negativo, perché il settore privato è in crisi dal 2020. Quindi che cosa succede? Succede che la situazione diventa insostenibile, il governo Biden arriva alla vigilia delle elezioni con un'economia che rischia una pesante caduta prima delle elezioni, chiaramente il governo democratico non può arrivare alle elezioni di novembre con l'economia che sta cadendo e pesta dentro tutta la spesa pubblica che può fare per sostenere il ciclo, erogare sussidi a pioggia a tutti quelli che potevano riceverli, allargare il debito pubblico al massimo. Teniamo conto che attualmente nel 2025, proprio per questi interventi del governo democratico, il deficit sta correndo al 14% del PIL, ma nessuno lo dice per non scatenare il panico, ok? Ma perde comunque le elezioni. Un presidente che perde le elezioni con la borsa ai massimi, la piena occupazione e l'economia che cresce. Ma come fai a perdere le elezioni? C'è qualcosa che non quadra. Perché i dati macroeconomici americani sono falsi, ma nessuno vuole dire. Però sapete, anche i dati macroeconomici europei sono falsi. Voi pensate veramente che la Germania, con la più grande crisi industriale dal dopoguerra, abbia il PIL che fa meno 0,2? C'è qualcuno che ci crede? Come fa il PIL della Germania a essere meno 0,2 se la produzione industriale tedesca l'anno scorso ha fatto meno 5,7%? E i consumi interni reali hanno fatto meno 3%? E siccome non facevano spesa pubblica, non poteva esserci l'intervento pubblico perché il deficit era zero. Come fa il PIL a uscire meno 0,2? Allora ve lo dico, il PIL vero della Germania è tra meno 2,5 e meno 3. Questa è la realtà. Ma non si dice. La Francia tarocca i dati macro, l'Italia... I dati Macron. Tutti si sono allineati ai cinesi. Siamo diventati tutti cinesi. Non si può dire che l'economia va male. Qualsiasi governo non lo dirà mai. Perché adesso tutti i dati macro sono politicizzati. Quindi che cosa succede? Biden perde le elezioni, arriva il governo Trump... E consapevoli di una situazione praticamente insostenibile, i consulenti economici del governo Trump formulano un piano di intervento. Questo piano di intervento era già stato scritto da un anno, è stato pubblicato su un sito internet di una società di ricerca macroeconomica di proprietà del consulente economico della Casa Bianca, che si chiama Steven Miran. E in questo piano economico c'è scritto tutto quello che il governo americano vuole fare. Per cui quando qualcuno dice che Trump è pazzo, dovrebbe andare a leggersi il piano economico per capire se lo è. Ma lui è pazzo, solo che lui esegue degli ordini. No, il problema è un altro. Il problema è che quando io ho cominciato a lavorare nel 1984-85, la prima cosa che mi hanno raccontato, allora c'era stata l'elezione di Reagan. Reagan è il primo Reagan 80, 1980, secondo 84. Esatto, nell'84, quando Reagan ha vinto il secondo mandato elettorale, il consulente economico di Reagan si chiamava Laffer, della famosa curva di Laffer. E noi operatori dei mercati finanziari, quando veniva eletto un presidente, andavamo a leggere quali erano i consulenti economici del presidente per capire che politiche economiche avrebbe fatto il governo. Oggi non si fa più. Oggi la Commissione Europea fa i piani economici per l'elettrificazione del mercato automobilistico, ma nessuno li va a leggere che c'era scritto che il sistema automobilistico sarebbe saltato. Erano scritti da due anni, non erano segreti, lo sapevano tutti che si faceva così. Quindi nel piano economico di Trump i consulenti economici, professori di Harvard, cioè gente qualificata, dicono al presidente: tu sei messo così, l'America sta per saltare. Quindi chiamano l'attuale ministro del tesoro Bessent, viene chiamato dal congresso prima di essere eletto ministro del tesoro, e io me la sono seguita alla televisione quella audizione. Viene chiamato dai senatori e gli chiedono: cosa intendete fare sul debito pubblico, sulla spesa? E lui dice: noi abbiamo due priorità. La prima priorità è tagliare le spese, cercare di fermare il deficit, perché noi rischiamo la bancarotta. Ha usato questa parola. La bancarotta. E poi dobbiamo confermare gli stimoli fiscali alle fasce più basse della popolazione, che stanno per scadere. Perché se non passano questi stimoli fiscali, per noi sarà una catastrofe. Queste parole usate. Per noi sarà una catastrofe. Nessuno ha riportato queste cose. allora ti vai a leggere il piano economico. Io l'ho girato a Massimo e ho detto: guarda qui cosa c'è. Io sono stato il primo in Europa, sicuramente in Italia, che ha pubblicato questo piano economico sul mio profilo LinkedIn, perché nessuno l'aveva pubblicato, nessuno. Ma dico, ma scusate, ma voi fate questo lavoro, nessuno si occupa di quali sono i progetti di politica economica del governo degli Stati Uniti. Nessuno. Ne avevamo parlato l'ultima volta, ecco. E questo personaggio naturalmente fa parte di questa corrente di pensiero che poi abbiamo sviscerato con tutti i nomi e cognomi, e è un collaboratore fisso della rivista della Heritage Foundation, di cui abbiamo parlato a varie riprese, per cui il documento che Maurizio mi ha mandato, economista di Harvard, uno presume che sia un documento tecnico, e invece è un documento potentemente ideologico, dove adesso si dice la narrazione dei fatti, diciamo l'anamnesi, è assolutamente un punto di vista estremamente radicalmente univoco, quindi è una realtà raccontata ma non una realtà che sia applicabile alla situazione degli Stati Uniti. Quindi c'è il classico vittimismo per cui noi abbiamo messo a disposizione il dollaro per il bene del mondo, abbiamo difeso il mondo occidentale attraverso le spese militari, eccetera eccetera. Quindi come sempre il canovaccio è sempre lo stesso: prima è quanto siamo stati bravi noi, quanto poco siamo stati capiti noi, ecco cosa ci tocca fare. Però quello che a me interessa non è se sono d'accordo su quel documento o no, ma mi interessa capire che cosa hanno in testa. È certo che io posso non essere d'accordo, ma se uno ha deciso di bombardarmi, anche se io non sono d'accordo, mi bombarda lo stesso, giusto? Per cui essere d'accordo o non essere d'accordo conta poco. Infatti, quando parlavo con dei miei colleghi dicendo: ma hai visto che cosa vogliono fare questi? E questi mi rispondevano: ah, ma non è possibile fare ste robe qua. E se le fanno, cosa facciamo? Perché in quel documento cosa c'è scritto? Loro dicono, non ve lo cito tutto, solo i punti che vi possono interessare. Loro dicono: noi abbiamo il dollaro sopravvalutato. Il dollaro sopravvalutato facilita da parte degli americani l'acquisto di beni e prodotti dall'estero, cinesi o europei, e quindi crea un enorme deficit commerciale che noi non possiamo più sopportare. Quindi dobbiamo fermare sta roba. Quindi primo, dobbiamo svalutare il dollaro. E questo lo dicono. Punto. Punto due. Non possiamo più fornire un ombrello di difesa al sistema occidentale, difesa militare, gratis. Ce la devono pagare. Noi siamo quelli che garantiamo gli equilibri economici mondiali. Qualcuno ci deve pagare per questo. Quindi abbiamo bisogno di incassare dei soldi. Secondo, terzo, il nostro debito non può essere finanziato dai nostri principali fornitori di asset finanziari, cioè dalla Cina, dal Giappone, dall'Europa, sottoscrivendoci titoli di Stato a 3 mesi, 6 mesi, 1 anno. Voi ci dovete finanziare per 100 anni. Quindi abbiamo bisogno di stabilizzare il nostro debito con finanziamenti di lungo termine. Quindi noi proponiamo di emettere delle obbligazioni a 100 anni che verranno sottoscritte dalle banche centrali dei principali paesi nostri alleati, per stabilizzare il rischio di un default degli Stati Uniti. Questo è un grande vantaggio per voi, perché se salta l'America saltate tutti, e in più difende il dollaro come divisa di riserva mondiale. Quindi queste sono le cose più importanti. Se non si accetta, se il mondo non accetterà queste proposte, e probabilmente non le accetterà, dice il documento, noi faremo una cosa: partiremo a mettere i dazi a tutti come strumento di coercizione per accettare queste condizioni. Quindi loro dicono: siccome Cina e Europa difficilmente accetteranno queste proposte, partiamo subito con i dazi. Dopodiché, quando verranno a chiederci di parlare, queste saranno le condizioni alle quali noi toglieremo i dazi. Ora, in quel documento c'è scritto anche un'altra cosa, che esiste un decreto presidenziale del 1973, mi sembra, allora presidenza Carter, Nixon, giusto? 72. Che dice che in caso di emergenza nazionale gli Stati Uniti possono bloccare i capitali che possono defluire dal sistema finanziario americano. È scritto in questo documento qua. Quindi in caso di rischio di crisi dell'America, noi possiamo introdurre un meccanismo di blocco dei capitali. Uno che mette giù una roba del genere, beh, vuol dire che la situazione non è così rosea, no? Come ce la raccontano, perché sennò non ci sarebbe un motivo per menzionare in quel documento una operazione di questo tipo estremamente pericolosa. Ora, questo è il motivo per il quale ci ritroviamo i dazi, e perché sembrano impazziti. Nella realtà non sono impazziti, sono in una colossale situazione di difficoltà finanziaria, hanno un 2008 in pancia che devono tenere nascosto, non sanno più come fare, continuano a fare spesa pubblica per cercare di tenere in piedi il sistema, ma sanno benissimo che non possono andare avanti così per molto. Ora, chiaramente Trump accelera tutto questo, perché Trump è uno che ha bisogno di risolvere i problemi in maniera estremamente rapida, quindi tutto accelera. Allora, che cosa vogliono gli americani? Vogliono queste cose, ma qual è il loro modello, il modello che hanno in testa? Il modello che hanno in testa, e questo l'ho scritto nella mia ultima nota mensile di macroeconomia, è che loro hanno fatto queste cose qui con il Giappone negli anni 90. Quindi, quando io ho cominciato a lavorare, e la maggior parte della gente che oggi lavora sui mercati finanziari queste cose non le sa, perché hanno 40 anni e quando succedevano queste cose probabilmente andavano ancora all'asilo, l'America nel 1986-87, allora presidenza Reagan, secondo mandato Reagan, aveva un colossale deficit commerciale tutti i mesi che usciva, 40 miliardi di dollari al mese, adesso siamo a 140 miliardi di dollari al mese. Però in termini reali i 40 miliardi di allora erano di più dei 140 che hanno adesso, ogni mese. Quindi tutti i mercati finanziari erano in totale fibrillazione tutti i mesi quando usciva questo dato, perché più peggiorava questo dato e più gli operatori che finanziavano, compravano i titoli di Stato americani si preoccupavano, perché dicevo: io compro i titoli di Stato americani, però questi continuano a fare sempre più debito, a un certo punto hanno cominciato a vendere i titoli di Stato americani. Pensate cosa succedeva. Avevamo i treasury bonds a 10 anni che venivano giù i prezzi, e quindi i tassi salivano, i prezzi scendevano, sono arrivati a accumulare una perdita di circa il 20% e il dollaro veniva giù assieme. La classica crisi da paese emergente, no? Tassi che salgono ma dollaro che scende e crisi del sistema del mercato obbligazionario. Nel frattempo la borsa di Wall Street, incurante come al solito dei fondamentali, tutti i giorni saliva, tutti i giorni, tutti i giorni, e noi ci si chiedeva: ma come fa la borsa a non vedere sta roba, no? Perché dici: cavolo, tutti i giorni sale, qui c'è una crisi valutaria e una crisi del credito americano, e la borsa tutti i giorni sale. Fino a quando arriviamo a ottobre del 1987 e in un giorno c'è stato il più grande crack che abbia mai subito la borsa americana nella sua storia, neanche nel 29, in un solo giorno perde il 22%, in un giorno solo. Vabbè, a quel punto interviene la Banca Centrale Americana, cercano di salvare la situazione, gli americani, incazzati come delle bestie, vanno a Tokyo e dicono ai giapponesi: adesso basta, adesso noi vi mettiamo i dazi, se volete vendere negli Stati Uniti dovete venire a produrre negli Stati Uniti. Allora c'era Sony, Toyota, Mitsubishi, tutta l'elettronica giapponese, le auto giapponesi, e in più dovete rivalutare lo yen. Lo yen rivaluta del 150% in 5, 6, 7 anni contro dollaro. Il Giappone sposta tutta la produzione automobilistica per l'America in America, tutti i grandi produttori giapponesi delocalizzano negli Stati Uniti e il Giappone entra in una crisi, una stagnazione pluriennale. Il governo giapponese, per contrastare questa situazione, interviene con la politica fiscale e aumenta il debito pubblico. Pensate che il Giappone era un paese perfetto. Debito pubblico giapponese 30% del PIL nell'88. Avanzo di bilancia commerciale stratosferico. Ci volevano 250 yen per comprare un dollaro. Debito pubblico zero, sistema perfetto. Salta per aria tutto. Nel 90 crisi della borsa giapponese. Gli americani hanno messo in crisi il Giappone. Il Giappone entra in una crisi che è durata 30 anni. Il debito pubblico giapponese dal 30% del PIL va al 240% del PIL, ma il Giappone non è mai più uscito dalla stagnazione. Perché? Perché quando tu produci in America, fai PIL in America, crei occupazione in America, crei reddito in America, ok? Rivaluti lo yen e quindi ti metti un dazio, giusto? Questi sono stati inchiodati con i tassi a zero per 30 anni. Cosa succede? A un certo punto, siccome il Giappone con i tassi a zero, tutti gli investitori giapponesi, le grandi assicurazioni giapponesi, fondi pensioni giapponesi, non avevano opportunità di investimento in Giappone, no? Perché compro i titoli di Stato giapponese, rendono zero, cosa li compro a fare? Tutti i soldi andavano in America a comprare i titoli di Stato americani. Quindi con questa operazione l'America ha ottenuto delocalizzazione, vieni a produrre da me, ti metti un dazio rivalutando lo yen, io svaluto il dollaro e in più mi finanzi. E oggi cosa dicono? Le stesse cose a tutto il mondo, le stesse identiche cose. Cosa vogliono da noi? Ripetere l'operazione Giappone. Allora la domanda che mi faccio è questa: ma secondo voi il mondo, l'Europa, la Cina, il Giappone ormai è spacciato, per cui non è che possono andare a chiedere al Giappone di fare altro, quello che ha fatto ha fatto. Ma secondo voi l'Europa accetta la Japanization, cioè di diventare un'area che finanzia l'America con i tassi a zero e col debito pubblico che continua a salire per tenere in piedi l'economia europea e con la deindustrializzazione? L'accetta l'Europa? Secondo voi la Cina accetta di andare a produrre in America, creare PIL in America, finanziare gli americani? Lo accetta? Mi sa che non lo accettano. E questo sarà un grandissimo problema per tutti noi, perché noi stiamo andando verso un conflitto geoeconomico. Perché quando verrà fuori che noi dovremmo finanziare gli fare la fine dei giapponesi, voglio vedere che cosa succede in Europa con i governi populisti Alternative for Deutschland al 40%, quanto dura sta roba. È molto difficile che gli europei possano accettare questa cosa qua. Quindi le possibilità a cui siamo arrivati dopo la crisi del 2001, non quella del 2008, dopo la crisi del 2001, è che il modello americano è arrivato in fondo e per proseguire ha bisogno di un altro Giappone da qualche parte. Il problema è che il Giappone che cercano loro non c'è più. Sarebbe molto più grande. Perché i cinesi, dai cinesi non si passa. Quindi questo è un grandissimo rischio per la tenuta del sistema economico americano e mondiale. Ecco, la mia domanda è quanto l'uno è integrato nell'altro e quanto dipendente, cioè il sistema mondiale rispetto agli Stati Uniti o gli Stati Uniti rispetto al sistema mondiale. Questo effetto di contagio mortale è inevitabile? Quali sono le conseguenze? Allora, per noi è molto difficile in qualche modo sganciarci dagli Stati Uniti da un punto di vista economico, perché paradossalmente negli ultimi 2 anni l'area euro ha aumentato l'interscambio commerciale con l'America e ha ridotto l'interscambio commerciale con la Cina. Questo su pressione americana. Gli americani sono venuti a dirci basta fare business con i cinesi. La famosa via della seta. Esatto, smantellate la via della seta, buttate fuori i cinesi dalle società di telecomunicazioni, rompete i business, gli accordi di business con la Pirelli, per fare un esempio sull'Italia, ok? Esatto, cioè quindi per noi è particolarmente difficile trovare una soluzione che in qualche modo salvi l'Europa, perché se non lo accetti che fai? Fai la guerra commerciale con gli Stati Uniti e a chi esporti? Che oggi il 30% delle esportazioni europee vanno in America, che facciamo? Non lo so. Però è chiaro che se tu, come funziona questo modello? Se tu dici ok, io faccio come i giapponesi, tu devi avere un'economia che ha un alto tasso di risparmio interno, quello ce l'abbiamo, ma non lo puoi usare qua. Lo devi dare a loro il tuo risparmio, perché se lo usi qua l'economia cresce, ma gli americani non ti dicono no, il tuo risparmio lo dai a me, perché io c'ho il debito e il mio debito tiene in piedi i tuoi negozi, la tua industria, la BMW, la Stellantis. Perché io compro le macchine a debito e tu me lo devi finanziare. Quindi ho bisogno che tu fai risparmio interno alto. Ma risparmio interno alto, chi cacchio consuma qui? Infatti in Giappone risparmio alto, consumi in Giappone zero, economia ristagna. Quindi ti chiedono questo. Adesso... No, volevo dirti, siccome tu hai citato la questione del risparmio, dentro quel meccanismo del riarmo europeo c'è tutta questa questione che poi per comodità hanno chiamato Eurobond. Questo qua è un meccanismo per cercare qualora ci riescono a fare, di rastrellare il risparmio per convogliarlo in questa operazione, a livello europeo. Ma questo implica, allora, il discorso degli euro bond in Europa è un problema per gli americani molto serio, perché se il governo americano in questo momento ha 30 trilioni di dollari di debito finanziati prevalentemente da investitori esteri, se gli europei fanno il mercato degli euro bonds, per l'America è un problema, perché il mercato degli euro bonds europeo sarebbe il più grande mercato AAA del mondo, in grande competizione quindi con i titoli di Stato americani. Attualmente gli unici titoli alternativi al debito americano sono quelli della Germania, ma la Germania non ha 30 trilioni di carta in giro, ne ha solo 2-3, poca roba. Quindi è un problema se noi facciamo gli euro bonds. Per l'America è un problema se l'Europa diventa quello che Draghi chiede, un mercato veramente integrato da un punto di vista finanziario, con un mercato finanziario unico, fiscalità unica. Cioè, più che altro quello che temono gli americani è che l'Europa diventi un competitor per i capitali internazionali dell'America, e quindi un mercato degli euro bonds da parte dell'America non è visto molto bene. Vi faccio un esempio: il Giappone 2 anni fa si è rotto le scatole di stare in una stagnazione globale, e quindi cosa ha detto? Facciamo una cosa, facciamo partire l'inflazione, quindi svalutiamo lo yen, facciamo partire l'inflazione, prima l'avevano rivalutato, no? Nella storia precedente, adesso facciamo il contrario, adesso svalutiamo lo yen, facciamo salire l'inflazione, con l'inflazione salgono i tassi di interesse, i soldi tornano in Giappone e si mette in moto il meccanismo di crescita. Sapete cosa ha detto il ministro del tesoro americano al governo giapponese quando questi hanno fatto sta roba? La signora Yellen, precedente all'attuale ministro del tesoro Bessent, è andata a Tokyo e gli ha detto: ma voi prima di fare queste cose qui dovete consultarvi con noi. Secondo voi perché? Perché avevano paura che i giapponesi dicono: vabbè, adesso i giapponesi si hanno i tassi al 3 e noi ce l'abbiamo al 4, cioè è meglio che sottoschiamo lo yen al 3 che l'America al 4, no? Perché se gli americani svalutano il dollaro con un punto percentuale di differenziale di interesse non ha nessuna protezione. Parliamo della Cina. La Cina se ne frega totalmente di questa situazione, perché i cinesi hanno un grande vantaggio. Siccome tutti dicono che la Cina è in crisi, no? La narrazione occidentale che la Cina è morta. Questa narrazione di tutti i giornali occidentali, Financial Times, Wall Street Journal, tutte le televisioni americane: la Cina è in crisi, guarda qua, guarda il mercato immobiliare, guarda questo è saltato, questo è fallito, tutto così. E poi leggi la ricerca macroeconomica americana sulla Cina, tutte le case di investimento americane, JP Morgan, Merrill Lynch, Bank of America, tutti che scrivono, Morgan Stanley, la Cina in crisi, deve fare lo stimolo fiscale alla Cina. E la Cina non lo fa. E tutti i mesi questi scrivono: la Cina deve farlo, sono degli incapaci, non fanno lo stimolo fiscale. E allora i cinesi fanno magari un intervento, non basta. E perché non lo fanno, secondo voi? I cinesi non fanno niente, perché sapete qual è il ragionamento dei cinesi? Dicono: cari americani, sapete qual è il problema? Perché volete che noi stimoliamo l'economia? Perché voi siete per caso nella cacca? noi non stimoliamo niente, tanto più che il nostro debito ce lo finanziamo tutto noi e in più finanziamo pure il vostro. Quindi noi di stimoli fiscali, fino a quando non abbiamo capito dove volete andare a parare con questa guerra dei dazi, noi non li facciamo. Sì, infatti una politica che stava essere avviata per... Sì, no, dicevo che una politica che la Cina stava avviando, avevano studiato, avevano messo tutti i piani al fine di aumentare i consumi interni, è momentaneamente sospesa. Sospeso tutto, perché? Ve lo spiego per te, perché. La Cina ha 1 miliardo di persone, di consumatori. È il più grande potenziale mercato dei consumi del mondo, più dell'America. Ma attualmente i consumi cinesi sono solo il 30% del PIL. In America sono il 75%. I consumi cinesi sono un'arma geopolitica, perché nel momento in cui i cinesi decidono che i cinesi devono consumare, tutti vogliono andare in Cina a vendere, giusto? Tutti vogliono fare business con la Cina. Quindi il gioco dei cinesi qual è? Fammi vedere le tue carte, vieni qua, trattiamo. Dopodiché, quando abbiamo definito quali sono le regole del gioco, a quel punto noi decideremo di stimolare i consumi interni. Ma a quel punto i soldi non vanno più in America, vanno in Cina. E così succederà, e questo ve lo dico per certo, succederà che noi qui entreremo in una stagnazione globale, tutto l'Occidente, che durerà 10 anni, 15 anni, non lo so. Questo dipende se il nostro sistema avrà una tenuta sociale, perché a differenza dei giapponesi, noi, o dei tedeschi, noi non abbiamo la tenuta sociale in situazioni di crisi. Il Giappone ha retto 30 anni di crisi perché il giapponese è un militare, capite? Psicologicamente è un militare. Ma noi non siamo fatti così. Mentre noi qui ristagneremo completamente, i cinesi apriranno il loro mercato interno, rilanceranno i consumi e tutta l'Asia farà business con la Cina. E le riserve valutarie, che oggi sono tutte in dollari, si sposteranno in Asia su qualcos'altro. Questo è il gioco, diciamo così. Oggi l'economia serve a fare la guerra, non serve a fare crescita, occupazione, ok? Serve a fare la guerra. La posizione cinese è estremamente più vantaggiosa rispetto a quella americana, semplicemente perché i cinesi hanno subito un crollo delle borse 2-3 anni fa, scatenato dagli americani, che hanno fatto un attacco speculativo agli asset finanziari cinesi attraverso i fondi di investimento americani. Ordine del governo: vendere tutto. BlackRock, Templeton, PIMCO, tutti hanno dovuto vendere sotto la minaccia di sanzioni. Questo ha procurato il collasso delle attività finanziarie cinesi. Però attenzione, perché i cinesi sono molto più furbi di noi e hanno due mercati. Un mercato finanziario solo per i cinesi e un mercato finanziario per gli occidentali. Il risultato qual è stato? Che vi faccio un esempio, un'azienda come Alibaba, che è la Google, diciamo così, la Amazon cinese, sui mercato di Hong Kong ha perso il 40, 50, 60%, ma sul mercato di Shanghai no. Quindi gli occidentali che sono stati obbligati a fare queste operazioni hanno perso i soldi e i cinesi no, perché i titoli erano detenuti da noi, quei titoli lì. Cioè tu a Hong Kong, i cinesi non comprano Hong Kong, perché Hong Kong è un mercato non per i cinesi, il mercato domestico dei cinesi è Shanghai, la borsa di Shanghai. Tu non puoi comprare i titoli alla borsa di Shanghai, puoi comprare solo a Hong Kong, e ci sono dei titoli, delle società che hanno delle azioni di tipo A solo per gli stranieri. Quindi il risultato, tu avevi la stessa società che per gli occidentali quotava 40 e per i cinesi 60. Quindi i cinesi hanno lasciato fare e hanno detto lasciamo che vendano tutto, li facciamo uscire. E sei mesi fa, quando l'operazione ormai era completata, tutti erano usciti dai mercati cinesi, è arrivato il governo cinese e ha detto ok, adesso stabiliamo un fondo di intervento per il mercato di Hong Kong da tot miliardi di dollari, adesso non mi ricordo l'importo, introduciamo delle norme di legge che obbligano le compagnie di assicurazione e le società cinesi a investire un tot sul mercato azionario. Il mercato azionario cinese ha cominciato a ripartire, no? Dall'altra parte invece cosa abbiamo? Abbiamo la borsa americana che è sempre sui massimi storici perché non può scendere. E lì perché è sui massimi storici? Perché il mercato azionario americano è nazionalizzato. Ma noi non possiamo dirlo, noi della finanza. Perché se no a cosa serviamo noi? Quindi noi della Banca della Magliana non possiamo dire che il mercato azionario più grande del mondo è nazionalizzato ed è in mano al governo e i prezzi li fa il Ministero del Tesoro. Perché se no, se io so questa cosa, io risparmiatore, perché ti devo pagare il 2% all'anno per gestirmi i soldi quando me li gestisce lo Stato? Allora tu a cosa servi? Tutto l'apparato finanziario, 100.000 analisti, tutta questa gente qui a cosa serve? A niente, è tutta lì per fare il circo, sono tutte comparse, capite? Questa è la verità, ma non si può dire. Un'altra cosa che non si può dire è che da novembre, appena dopo le elezioni di quest'anno, i tassi di interesse sui titoli di Stato americani a 10 anni sono controllati dal governo. Ma non si può dire. No, la Fed non li controlla. Il ministro del Tesoro Bessent, nell'audizione al Congresso, ha detto i tassi a breve termine sono un problema della Fed, ma i tassi a 10 anni sono un problema nostro. Quindi decidiamo noi dove vanno e istituiamo il cosiddetto fondo di intervento, Fund Stabilization Fund, loro sono bravi a inventare delle cose, per intervenire sul mercato a definire il livello dei tassi. Quindi anche lì, come in Giappone. Se poi la volete sapere tutta, il governo Trump ha svuotato la Federal Reserve di tutte le competenze sulla vigilanza bancaria e sulla vigilanza sugli intermediari finanziari. Adesso questa roba qui è in capo al Ministero del Tesoro. Perché? Perché a un certo punto la Federal Reserve rompeva le balle alle banche, grandi banche americane, per chiedergli informazioni come mai tutti sti prestiti verso lo shadow banking system, cioè verso tutto quel credito speculativo da 12 trilioni di dollari che vi dicevo. Da chi è tenuto in piedi tutta quella roba? Dalle banche. Quindi c'è questa fortissima interconnessione, no? Tra il sistema bancario, come nel 2008, tra il sistema bancario e lo shadow banking system, cioè tutto quello che è credito speculativo, dove non ci sono i prezzi, non sai, non c'è un auditing, non sai quanto vale la roba. Sì, ma quella roba lì vale il 50% del mercato finanziario americano. Cioè, si chiama shadow banking, ma non è una robettina. Se vi devo darvi i numeri di cosa vale, allora solo il private equity, che è shadow banking, vale 9 trilioni di dollari. Il PIL sono 24. Quello è private equity. Esatto. Private credit, hanno inventato i fondi di private credit. Cosa sono? Prestiti a società, a privati, che le banche non fanno. Ma perché le banche non le fanno? Perché a quella gente lì non gli presterebbe i soldi mica nessuno. Sì, tutti subprime. Meccanismo quello. Quanto vale quel mercato lì? 2 trilioni di dollari. Solo quello. 2 trilioni di dollari. E arriviamo a 11. Poi ci sono tutto il mercato delle cartolarizzazioni. Tutto il credito in America è cartolarizzato. Cioè esce dai bilanci delle banche e viene trasformato in un'obbligazione che rende un tot. È venduto a fondi pensione, a fondi di investimento. Solo il commercial real estate, che sono gli uffici, i grandi capannoni industriali, i finanziamenti ai data center, no? Tutta sta roba qua, sapete quanto vale solo quel settore lì, che ha tassi di insolvenza già oggi al 12-14%? Vale 4,5 trilioni di dollari. Il PIL sono 24. E arriviamo a 15 e mezzo. E non lo conosciamo tutto. Queste sono le cose che sappiamo. Poi ci sono i leverage loans. Cosa sono? Prestiti a leva iperspeculativi per finanziare le operazioni di private equity piuttosto venture capital, leverage buyout, acquisizioni a leva. 1,6 trilioni di dollari. Il PIL sono 24. Se sommiamo tutta sta roba qua, ci rendiamo conto di che cavolo stanno finanziando le banche americane. È balzato agli occhi degli analisti più attenti, non quelli di Wall Street ovviamente, che nell'ultimo trimestre del 2024 le banche americane non hanno prestato soldi a chi doveva comprare una casa, non hanno prestato soldi a chi doveva comprare la macchina, non hanno prestato soldi a chi doveva pagare le rate sugli student loans, non hanno prestato soldi a chi faceva credito al consumo, cioè il lending, diciamo, l'attività di prestito a tutta questa gente qui era zero, anzi in leggera diminuzione, ma balzava all'occhio il fatto che i prestiti allo shadow banking system, che sono tutti quei numeretti che vi ho detto prima, ha fatto solo in quel trimestre più 28%. Siamo messi bene? No. Allora, è chiaro che queste cose qua non ve le racconteranno mai quelli che lavorano alla JP Morgan, non me le racconterà mai nessuno, perché nella maggior parte dei casi queste informazioni sono informazioni che appartengono giusto a un segmento del mercato finanziario che tu, Massimo, hai conosciuto molto bene. No, ma il problema... Il mondo degli hedge fund, il mondo... Ma il problema è che non se ne può parlare perché c'è un'intera struttura sociale, c'è un ceto che vive di questo e quindi è un sistema che nel momento in cui qualcuno alza il dito e dice ma vedo un po' di fumo nella stanza, la stanza viene demolita da tutti quelli che scappano. E nel momento in cui ho delle remunerazioni di un certo tipo, ho degli stili di vita di un certo tipo, li difenderò fino alla morte. Praticamente oggi tutti mi chiamano per fare eventi, convegni, perché sanno che gli racconto queste cose qua, no? Cose che nel mainstream non si dicono, sui giornali sì, non si dicono, sulla ricerca non si dicono. È la funzione più o meno di un film dell'orrore, che dici tanto, esatto, cioè, tanto è un film, mi sono spaventato, ma poi si è accesa la luce del cinema e siamo tutti tornati a casa. Però la perché oggi succedono queste cose qua e tutto è coperto? Perché gli operatori dei mercati finanziari oggi fanno parte del sistema. Non sono più gestori, non abbiamo più i gestori, quelli che decidono se questa cosa bisogna comprarla o non bisogna comprarla. Questa cosa si compra, ok? Le grandi banche di investimento di Wall Street una volta erano consulenti di investimento, adesso sono parte del sistema. Lo scopo è venire in Europa, andare in Giappone a raccogliere soldi dei risparmiatori europei e giapponesi per sostenere il sistema finanziario americano. Questo è il lavoro. Sì, ma loro hanno una funzione strategica. È una funzione, loro fanno parte del sistema. Quindi è chiaro che chi lavora in queste banche non può dire queste cose. Ma loro sono quelli che impacchettano queste cose. Quindi sanno. In più ci guadagnano, quindi. Capite? Cioè nel 2008, nel 2007... prima della crisi dei subprime, cosa facevano le grandi banche di investimento americane? Stava per saltare tutto, avevano in pancia tutta sta roba che era marcia da mesi, no? Perché io conoscevo la situazione molto prima di quando si è verificata, almeno un anno prima, no? Forse l'ho raccontato qui una volta, nel marzo del 2007... la più grande banca americana, la Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, inglese, pubblica il bilancio trimestrale dicendo che aveva un buco sul settore dei mutui. Era la più grande banca che operava nel settore dei mutui e chiudeva la divisione alla televisione, alla CNBC, hanno detto questo. Quando io ho sentito questa notizia ho detto, e le altre? la domanda che mi sono fatto spontaneo, ho detto, e le altre? Quando faccio i corsi all'università agli studenti di economia, la prima cosa che gli faccio vedere è le dichiarazioni della Federal Reserve prima della crisi del 2008. Tutto bene. Beh, ma le agenzie di rating, le famose di cui abbiamo parlato, praticamente i mutui subprime era tutto triplo A. Sì, ma è tutto uguale ancora. Prima di saltare... Tutto uguale, non è cambiato niente. Goldman Sachs, Maurizio si riferiva a loro, aveva in pancia mutui subprime per vari miliardi di dollari che sono stati poi fatti fuori sulla base di raccomandazione d'acquisto che loro rivolgevano ai loro clienti, e sono arrivati freschi e intonsi nel momento del crollo. Ma cioè ai tempi le banche americane prima della crisi facevano grandissime convention a Las Vegas, Miami, nei posti più belli, okay, degli Stati Uniti, e tutti gli invitati erano banche europee. Per cosa? Per vendere il credito speculativo che avevano in pancia. E quindi l'anno prima della crisi c'era questa intensissima attività di marketing a cui invitavano gratis, no? Tu andavi a New York tutto pagato, vieni qua, ti compri 20, 30, 40 milioni di dollari di sto schifo, ti pago io il viaggio, non c'è problema, ti pago anche le escort, no? Pago tutto io, non ti preoccupare. Vuoi stare una settimana a Las Vegas? Paghiamo noi. E poi abbiamo visto cosa è successo però nei bilanci delle banche europee. Ma come mai le banche europee vanno a Miami a comprare sta roba? Pagano gli americani. Vieni, invito l'operatore, viene con la famiglia, portati la famiglia se vuoi, portati gli amici, cioè paghiamo tutto noi, tutto gratis. Ma la convention di farmaceutici. Sì, ma funziona così, cioè anche nella finanza, così come nel settore farmaceutico funziona uguale. Quindi ti invitano a ste robe dove ti trattano bene, alberghi tra i più belli, no? E tutto. tutto pagato, però quando torni a casa mi compri 30 milioni di dollari qui, 25 milioni di dollari, e questi comprano. E questi comunque comprano. Il tuo amico Jeffrey Sachs, di cui mi hai mandato sì. l'intervento al Parlamento europeo, rispolverava quel famoso detto che dice: essere nemici degli Stati Uniti è un problema, ma essere amici è letale. È letale. Quindi siamo messi così. Questa sarebbe, diciamo, la realtà delle cose, che non vi verrà mai raccontata sui giornali, che probabilmente vi verrà raccontata quando scoppierà un casino. Perché poi quando scoppierà un casino ci sarà il giornalista che intervisterà me o un altro che gli dirà: ma eravamo messi così. Ah, però, come nel 2008, no? Dopo nel 2009, nel 2010 hanno fatto anche il film. E come diceva Quindi Sordi... Quindi siamo messi così. Quindi non pensate che qui è tutta una follia, c'è un pazzo che sta facendo delle cose che non si capisce perché le fa. Si capisce perché le fa. Si capisce molto bene. Il problema è che non si deve dire perché le fa. E le criptomonete non possono essere ancora un altro buco. Allora, lì le criptomonete, il progetto che hanno loro sarebbe questo qua. Loro dicono: adesso c'è in giro 3 trillion, PIL americano sono 24, ve lo ricordo se così fate poi i rapporti, di criptomonete. Cosa servono queste criptomonete? Così come sono? Niente. Niente. Servono a niente. È una roba che serve per speculare, giocare, ma il valore di sta roba nessuno sa qual è veramente. Cosa possiamo fare con questi 3 trilioni di soldi che sono finiti lì dentro? Cosa vogliono fare? Vogliono dire: tu hai la criptomoneta Bitcoin? Per me va benissimo. Io sono d'accordo. Però, come collateral alla criptomoneta che tu emetti, ci deve essere un titolo del debito americano. Ok? Quindi non le buttano via. Loro dicono: c'è un bel malloppo, lì dentro ci sono 3.000 miliardi di dollari, hai capito? Ma per garantirli. Ma però noi non vogliamo che sta roba qui, hai capito, che cosa vale sta roba qui? Cosa vale? Vale se hai sotto un titolo di Stato del governo degli Stati Uniti. Per cui si è creata una bolla enorme che deve comprare un'altra bolla. Eh sì, cioè prendiamo questi soldi e facciamo in modo che vengano collateralizzati col nostro debito. Ora, è chiaro che ci sarà da divertirsi nei prossimi anni per mettere a posto tutto sto casino, eh? Vabbè, lasciamo un attimo che venga metabolizzato tutto quello che è stato detto, e non è che ci vorrà 5 minuti, però se qualcuno vuole fare qualche domanda e poi viene qua, perché comunque siamo anche in streaming e quindi ci sentono anche via radio, per questo che necessita venire qua a parlare al microfono, se qualcuno vuole qualche domanda o qualche considerazione può benissimo venire. A questo punto è una strada obbligata quella del governo americano di ripetere l'operazione Giappone, cioè nella follia è la cosa più logica che potrebbero fare, non ci sono altre strade che possono. Infatti loro sanno benissimo che, cioè il concetto che praticamente loro portano avanti è: se tu non fai così io salto, e se salto procuro una crisi mondiale, quindi fallisci anche tu. Giocano su questo aspetto, però qui c'è un problema: la variabile Cina è la variabile fondamentale che tiene in piedi questo meccanismo. Allora i cinesi, secondo voi, per partecipare a questo gioco qui cosa chiedono? Cosa possono chiedere? Taiwan. Io partecipo al gioco e tu ti ritiri dall'Asia. Non ci sono chance. Io partecipo al gioco, io ti finanzio, ok, mi va bene. Mi va bene anche che tu tieni il dollaro come divisa di riserva, va bene. Io non voglio una divisa di riserva, perché una divisa di riserva è un problema. Devo stampar moneta, devo dare liquidità a tutto il mondo, no? Devo avere un sistema finanziario che è una bisca, un casino, no. Io sono... non sono per queste cose, i cinesi non sono per queste robe, non sono finanzieri, non sono dei finanzieri, loro sono dei produttori, per cui non gli interessa avere una divisa di riserva, capite? Quando tutti dicono la Cina vuole soppiantare il dollaro, come dire, no, la Cina vuole soppiantare il dollaro se l'America attacca la Cina, allora la Cina può mettere in atto delle cose che mettono in crisi il sistema finanziario americano, ma non hanno un interesse a farlo. Allora va benissimo che il mondo utilizzi i dollari, però in cambio cosa vogliono? In cambio loro sanno che possono stimolare la domanda interna e diventare un'economia estremamente attraente per gli investimenti esteri, quindi è molto difficile che dalla Cina possano uscire grandi investimenti fatti dalle grandi multinazionali, e sicuramente i cinesi in cambio vogliono che venga riconosciuta la leadership cinese in Asia. In Africa ce l'hanno già formalmente, perché in Africa la Cina ha buttato dentro una marea di soldi e è molto difficile buttarli fuori adesso. Molto difficile, cioè chiaramente la Cina ha un grande svantaggio a stare in Africa, che tutte le principali rotte commerciali sono controllate dagli americani. Hanno comprato ultimamente molti porti lungo la costa. Però è vero, no, tu compri i porti, però se vuoi portare con le navi quello che tu estrai in Africa, devi passare dagli stretti di Malacca controllati dalle basi americane. Quindi la Cina è in una situazione abbastanza vulnerabile sulle rotte marittime, no? È in questo momento molto favorita dal fatto che l'alleanza con la Russia gli permette di accedere a tutte le materie prime della Russia senza passare da nessun paese che in qualche modo è controllato dall'America, e non c'è nessuna base americana tra i confini russi e quelli cinesi. L'unico paese è la Mongolia. Perché la Georgia è così importante? Perché la Mongolia è così importante? Perché lì gli americani non ci devono entrare, ma gli americani ci vogliono entrare in Georgia. Però gli americani vorrebbero avere la Georgia, perché è una grande rottura di scatole per i russi avere basi americane lì. I cinesi chiaramente non, in questo momento hanno un canale diretto di approvvigionamento di tutto quello che gli serve dalla Russia. Quindi l'Africa non la vedo così strategica in questo gioco. Ci sono, però, se non riescono a portarsi a casa in caso di conflitto quello che gli serve dall'Africa, c'è la Russia che abbondantemente gli dà tutto quello che gli serve. Ci hai raccontato all'inizio del piano di rientro che passa attraverso i dazi e un po' quella che è la strategia di rientro americana. Quattro ore fa Trump, però, a poco più di 100 giorni del mandato, ha dichiarato che forse si sono un pochino sbagliati. E la Cina ha risposto che è disposta a dialogare, ma che tanto è irremovibile. Per cui tutta questa mega strategia che dura da un anno è campata a 100 giorni, e oggi è il giorno in cui fanno retromarcia. E se fanno retromarcia, qual è il piano B? Se neanche quella specie di archibugio malefico che ci hai raccontato ha funzionato ed è durato 100 giorni. No, effettivamente l'America non può fare una retromarcia su questa cosa. diciamo che per loro la retromarcia è che i dazi al 145% sui prodotti cinesi non può reggere, no? Quindi sanno che devono tirarli giù, ma non torneranno più a zero. Quindi è probabile che con la Cina i dazi, alcuni analisti dicono che dovrebbero rimanere al 25%, altri dicono che rimarranno almeno al 40%. Leggendo le intenzioni del governo americano sembra che in caso di rientro di questa tensione commerciale rimarrebbero comunque dazi al 25% nei confronti di Europa e altri paesi come Canada, Messico e via dicendo, ma con la Cina probabilmente rimangono almeno al 40%. Quindi c'è una de-escalation sicuramente per forza, ma non si torna più dove si era prima. Perché? Perché se tu vuoi mantenere, diciamo, in vita la strategia di riportare attività manifatturiere in America, devi mantenere comunque uno svantaggio a produrre fuori, no? Ora gli americani dicono: noi vogliamo che voi portate qui tutto quello che per noi è strategico. Quindi tutto quello che noi produciamo come tecnologia, in particolare per gli armamenti, per i sistemi di telecomunicazioni, non può essere fatto in giro, perché in caso di crisi noi siamo morti. Cioè se scoppia una guerra, un conflitto mondiale, e tu dipendi dai pezzi che fanno in Corea del Nord o in Corea del Sud, scusa, è un casino, non si può. Allora coreani, venite a farli qua. Settore farmaceutico, quando c'è stato il Covid, era la Cina e l'India che mandavano i farmaci agli Stati Uniti, in particolare l'India. Non va bene questa roba. Gli americani dicono: no, quella roba lì deve essere qua, perché se succede qualcosa i farmaci dobbiamo controllare noi tutto il processo. Quindi alcune cose stanno in piedi, no? Sono giustificate per un paese come l'America avere in casa, per sicurezza nazionale, certe produzioni. Per altre cose no, perché altre cose nascondono, diciamo, quelle fragilità di cui si parlava. Per certe cose è giustificato, sicuramente è giustificato. Posso dire anche mi viene in mente. No. No, parla. Mi viene in mente, durante la Seconda Guerra Mondiale, Robert McNamara, che poi è stato presidente della Banca Mondiale, segretario di Stato, eccetera, eccetera, e McNamara Boys. Sì, i McNamara Boys, che avevano sostanzialmente strategicizzato tutta la catena produttiva, per cui avevano convertito gli stabilimenti da civili in militari, avevano curato tutto il flusso della logistica, tant'è vero che la maggior parte poi sono stati quelli che proprio per gestire questo avevano dato il primo impulso per i microchip, i computer e via dicendo, ma fondamentalmente era una visione militarizzata di tutta l'attività produttiva. Credo che però il parallelismi con quello che tu stai descrivendo sono fortissimi, nel senso che tutto ha una ottica ed è sotto una visuale strategico-militare, no? Sì, ma solo per alcuni settori, sì, certo. Perché secondo me è impossibile tornare alla totale autarchia come avevamo nel Novecento. Cioè una deglobalizzazione così è praticamente impossibile, perché si salta per aria, no? Certo. Quindi secondo me alla fine di questo gioco noi abbiamo due rischi particolarmente elevati. Il primo è che in mezzo a questa questo periodo di tempo tra quando Trump arriverà alla fine del mandato ci possa essere una grave crisi economico-finanziaria. c'è questo altissimo rischio. E questo chiaramente farebbe interrompere in qualche modo tutta questa situazione, però innescherebbe tutta una serie di conseguenze. Le conseguenze potrebbero essere che gli americani potrebbero non tenere socialmente in una crisi economico-finanziaria. C'è una situazione particolarmente critica di tenuta sociale in America. Tant'è vero che se voi andate a vedere i sussidi sociali negli Stati Uniti, sono la parte più importante del bilancio pubblico. Oggi noi abbiamo 70 milioni di famiglie negli Stati Uniti che vivono per i sussidi pubblici. 200 milioni di cittadini. Qui vuol dire che se tu vuoi tagliare la spesa pubblica è molto complicato, cioè non ce la fai. Quindi il problema è che allora noi abbiamo da qui alla fine del mandato Trump l'implementazione di queste cose rischia di innescare una crisi economica finanziaria. La seconda cosa, siamo già in una crisi economica, però la seconda cosa è che c'è un rischio conseguente di tenuta sociale, perché tu non puoi tagliare la spesa pubblica, devi continuare a fare debito. Questo debito però ti deve essere sempre garantito un finanziamento estero stabile, quindi devi chiedere ai tuoi alleati quelle cose che vi dicevo. Cioè è molto complicato fare questa roba in 2 anni, 3. Cioè è una situazione molto difficile. Qui ci vorrebbe un accordo globale di cooperazione tra tutti i principali paesi che francamente con l'approccio americano in questo momento la vedo dura. Perché l'America è partita all'attacco, adesso dovrebbe, come dicevi tu, fare una retromarcia pazzesca per aprire un tavolo di trattative. Però nel momento in cui fai una retromarcia pazzesca, Trump... Cioè, c'è un bellissimo libro che si chiama La strategia del pensiero, che parla del modo di concepire la trattativa tra un asiatico e un occidentale. Chi legge quella roba lì, è un libro interessantissimo, chi legge quel libro capisce che è molto difficile fare accordi tra gli americani e i cinesi, perché l'americano ha un approccio di imporre il proprio punto di vista, il cinese invece ha un approccio di trovare una mediazione, ma che richiede tanto tempo. Racconto un aneddoto che è troppo divertente. È stato scritto un libro tanti anni fa che si chiamava Trading Places, come il film, e raccontava degli scambi commerciali e dei problemi commerciali tra Giappone e Stati Uniti. Allora, la delegazione giapponese che negoziava era sempre la stessa, anno dopo anno dopo anno. L'amministrazione continuava a cambiare, quella americana, con le elezioni. E cosa succedeva? Succedeva che i giapponesi, richiesti e pressati dagli americani, facevano più volte la stessa concessione agli americani. Per cui dicevano non c'è problema. E poi c'era dice, questi mi chiedono la stessa roba che ci avevano chiesto quelli della Dama, non si sono parlati, per cui vabbè sì, concediamo una roba che aveva già concesso 2 volte. E poi c'era il paradosso della lattuga, così chiamato, perché i giapponesi dovevano comprare la lattuga americana, che ai giapponesi non piaceva, non la volevano perché probabilmente aveva pesticidi e cose del genere. E loro hanno detto, sì sì, non c'è problema, una volta che è ispezionata la lattuga può essere venduta. Il problema è che per ispezionarla ci voleva 1 settimana e la lattuga, esatto, marciva. A proposito di questa cosa, un'altra cosa che volevo aggiungervi, molto molto importante, mi sono dimenticato, è che voi, io non so se voi alla televisione avete visto a un certo punto quella famosa conferenza del Liberation Day, il presidente Trump sventolare un libro in mano. Io me lo sono letto quel libro lì, quello è il libro pubblicato dal governo degli Stati Uniti sulle politiche commerciali scorrette fatte da tutti i paesi del mondo, quindi dall'Albania fino a Nuova Zelanda, nei confronti degli Stati Uniti. Chiaramente non è che mi sono letto tutti i paesi, perché c'è dentro il Sudan, la Liberia, ecco. Lì dentro però, se tu ti vai a leggere quello che fanno i canadesi, quello che fanno i messicani, quello che fa la Cina e quello che fa l'Europa, è interessante per capire il punto di vista degli americani, no? Cioè, perché se tu non capisci il punto di vista di chi hai di fronte, come fai a trattare? Non capisci. Capisci cosa vogliono sti qua. Allora vi faccio degli esempi. E ho fatto, quando ho letto quel libro lì, ho fatto un esempio nel nostro comitato di investimento che abbiamo fatto qualche giorno prima che ci fosse la conferenza stampa di Trump, no? E Trump ha fatto lo stesso esempio che ho fatto io, perché i canadesi cosa fanno? Allora, prodotti alimentari americani. Allora, l'America esporta latticini in Canada, burro, latte, formaggi. Il Canada cosa dice? Allora, entrano senza dazi, però fino a una certa quantità. Nel momento in cui aumenta la quantità, la domanda di prodotti di latticini americani, i canadesi introducono un dazio del 25, 40, 50, 70%. E gli americani si incazzano, perché dicono, scusa, aumenta la domanda del mio prodotto perché si vede che ha una qualità migliore del tuo, e nel momento in cui vedi che aumenta la domanda mi stronchi il business aumentando i dazi. È lì che facciamo? C'hanno ragione gli americani, presumo, no? Almeno su questo punto. Abbiamo una serie di problemi irrisolvibili con l'Europa, che non passeranno mai, perché gli americani dicono in Europa ci bloccano l'ingresso dei nostri prodotti perché in Europa ci sono degli standard sul settore alimentare che sono praticamente messi apposta per impedire la vendita di prodotti agricoli americani. Lo so, però vaglielo a dire agli europei che ti devono comprare i cereali con tassi di pesticidi fuori dalle norme europee. Vaglielo a dire che tu adesso devi comprare il grano americano con tassi di pesticidi a norme altamente più a limiti altamente più alti di quelli che abbiamo qua. Come fai a dire all'opinione pubblica europea ti becchi il grano americano? È un casino. No, lì non ci passi perché sono norme europee, non ci passi. Ci sono altri problemi irrisolvibili, ad esempio noi abbiamo tutta una serie di norme sul packaging, sul riciclaggio della plastica o della carta. Gli americani non lo fanno. Quindi tu arrivi con un prodotto americano impacchettato con la plastica, il 20% di quella plastica per le norme europee deve essere riciclato. In America no, non entra in Europa, non entra. In Cina è un casino, anche i cinesi hanno i loro standard. Al di là delle pratiche commerciali scorrette, ma ci sono delle cose che non riesci a risolvere. Perché gli americani vanno dai cinesi e gli dicono: tu produci questa roba, per produrre questa roba e venderla a questo prezzo qua stai facendo aiuti di Stato, questa roba qua non può arrivare sul mercato a quel prezzo se non ha gli aiuti di Stato, quindi è concorrenza sleale, tu devi togliere gli aiuti di Stato a questo prodotto e lasciare quindi che sia il mercato a decidere il prezzo di sta roba. Il problema è che la struttura produttiva cinese, se fa questo, mette fuori mercato il 20% della produzione industriale cinese, adesso butto lì un numero, e i disoccupati dove li mettono i cinesi? I disoccupati che si creano con la libera concorrenza dove li mettiamo? Sono in buona compagnia degli europei. Appunto, però i cinesi non lo accettano. Non l'accettano, quindi è un casino. Poi non so, vi faccio altri esempi sui prodotti cosmetici. Tu hai un prodotto americano, vai in Cina, i cinesi ti dicono: io voglio sapere come è composto. Cosmetico L'Oreal vuole vendere in Cina, mi dai la formula, voglio sapere come è fatto, perché voglio sapere se ha componenti allergeni, cose del genere. E chiaramente L'Oreal dice: no, io la formula te la do perché me la freghi. E quindi quel prodotto lì non entra in Cina. A risolvere queste cose qua, capite che è un casino. Vatti a fidare degli americani con la Monsanto, che ha praticamente il monopolio mondiale delle sementi, e nel momento in cui arrivano gli americani da qualche parte obbligano all'utilizzo di sementi che sono geneticamente modificate, che non possono, che alla fine sono sterili, per cui una volta che vengono piantate i semi che ne vengono fuori sono sterili, quindi li deve ricomprare. Quindi c'è un discorso di assoluta scomparsa della diversità, diventano monoculture e tutta questa roba qui. Quindi è un po' come la storia della Boeing e del Airbus o Airbus, che dir si voglia, no? Cioè gli americani accusavano l'Unione Europea di finanziare e foraggiare gli aerei Airbus. Se vai a vedere però la logica di come gli americani hanno sempre gestito il rapporto con la Boeing, dici: ma scusa un momento, ma è il famoso bue che dà del cornuto all'asino, perché più aiuti americani, molti più aiuti americani, oltretutto è molto semplice, se io gli aiuti non te li do per il Boeing 737 o cose del genere, te li do perché ti faccio un contratto per la difesa che vale 10 volte quello, e dentro ci ho messo l'aiuto che avrebbe dovuto andare lì. Per cui insomma non è un gioco in cui c'è chi gioca pulito e chi gioca sporco. Certo che nel momento in cui quello che ha il martello più grosso picchia il chiodo, alla fine sembra che debba avere ragione lui necessariamente, ma diciamo che, per concludere, io direi che alla luce di tutto quello che vi ho raccontato ci sono elevatissime probabilità di una lunga e tribolata crisi economica mondiale, altissime probabilità, che questo possa comunque creare fortissime pressioni sociali in tutti i paesi del mondo, tranne in Cina, perché in Cina questa situazione dello scontro con l'America ha creato una colossale coesione sociale. Quindi i cinesi adesso vedono tutti l'America come un nemico. E questo per il presidente Xi Jinping è stato un colpo pazzesco, perché la crisi, diciamo, cinese, in qualche modo, che è anche sentita sicuramente dai cittadini cinesi, adesso è tollerata. Prima no, adesso sì. Perché gli hanno venduto il nemico esterno che mette in crisi la Cina, capite? Quindi qui abbiamo davanti una turbolenza geoeconomica e geopolitica che non rientrerà nell'arco di 2 o 3 anni. Non rientrerà nell'arco di 2 o 3 anni. Questi sono impatti di lungo termine che dureranno anni e potrebbero innescare una situazione di rischio di tenuta del sistema sociale americano. Questo è il riassunto, secondo me, di questi problemi che stanno esplodendo. Scusa un attimo solo. No, io ti volevo semplicemente fare presente che la questione del debito è strettamente collegata alla circolazione comunque delle merci. Oggi come oggi, se vai a vedere i luoghi, facciamo gli esempi più eclatanti, Ucraina, Gaza, Sudan, chi ne ha che più ne metta, non so più, hanno fatto una statistica, ci sono, adesso salta fuori anche la questione India-Pakistan, chi ne ha più ne metta, ma sono tutti luoghi dove dentro questo stato dell'arte la questione della circolazione delle merci è praticamente finita. Siccome la circolazione delle merci è strettamente legata alla questione del debito, perché il debito comunque può essere mantenuto, tra tra virgolette, grazie a questo fatto, perché sennò anche la speculazione non ci può stare. Poi sono d'accordo che tutto questo può, non è una situazione che in un paio di medi anni si mette a posto, anzi, e noi speriamo che succeda qualcos'altro, diciamo, quindi che non vadano alla precipitazione di una guerra generalizzata. Io propongo, da allora, propongo solo un ulteriore tema che prosegue questo, e che è il fatto che per risolvere la crisi, che non si può risolvere, ci si appropria fisicamente delle ricchezze e dei territori. Cioè, uno è successo con i capitali russi dopo la guerra, con la guerra di Ucraina. Il primo giorno hanno bloccato tutti i capitali russi, adesso non si sa cosa faranno con gli interessi cosiddetti, eccetera. Questo è un aspetto. Ti metto le mani, tu sei il mio nemico, ti metto le mani sul tuo capitale. La stessa cosa hanno proposto gli americani, di fatto tu ne hai parlato, però si potrebbe ancora estendere. E poi c'è la questione territoriale, perché la Russia si sta prendendo il Donetsk. Gli americani, con Trump, che non è Trump, è quel libro lì che dicevi tu, eccetera, l'Heritage Foundation, eccetera, minacciano di mettere le mani sulla Groenlandia, che è un forziere, non è solo questione strategica, anche questione economica. In Africa abbiamo guerre di appropriazione di territori che sono poco sentite, ma enormi. E la stessa cosa può avvenire anche in Europa. Cioè, una delle conseguenze della crisi e dei metodi violenti di risoluzione della crisi, che poi la aggravano e la portano alla guerra aperta, perché è una questione militare, è l'espropriazione fisica di territori e capitali. Ed è lo stesso trattamento che la borghesia in ogni Stato fa ai lavoratori. Io ti esproprio della tua pensione, cioè tu hai fatto il tuo programma pensionistico, ma i fondi dell'INPS vanno alla Leonardo. Faccio un esempio brutale, perché questo è già successo nel fascismo, quando l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale prese i fondi, e ne aveva di soldi, e li mise ovviamente nella produzione militare. Per cui questo lo propongo come tema ulteriore. Grazie. Grazie, le faremo sapere. Sì. Guardi che vengo in casa e le prendo la roba. A parte il fatto che la questione della tenuta sociale è la questione fondamentale, perché noi parliamo di geopolitica, ma uno dei riflessi, anzi il riflesso che ci interessa particolarmente, è questo tipo di politica cosa produce nelle classi sociali americane, soprattutto in quella che è la classe più povera americana. Il secondo aspetto che mi interessa è questo: noi abbiamo visto è la tenuta dell'Unione degli Stati Uniti, perché abbiamo visto proprio recentemente come addirittura 12 stati abbiano proposto alla Corte di impugnare i provvedimenti sui dazi della Federazione. Questo aspetto, a mio parere, è importante, molto interessante, perché è uno dei risvolti della crisi americana. Cioè, non è solo una questione di stati democratici contro stati repubblicani, è una questione soprattutto di alcuni stati, che sono quelli sul Pacifico, tra l'altro, parte, che hanno esigenze che a questo punto sono diverse da quelle che è la Federazione. Quindi questa politica può produrre addirittura, o è in grado di produrre addirittura, una situazione di implosione degli Stati Uniti? Assolutamente sì. Sta già avvenendo. Voi sapete che in America ogni Stato conta due senatori, che sia Rhode Island, Delaware o la California. California è diventata la quarta economia con 4 trilioni di dollari di PIL, ha superato il Giappone. Quindi da una parte hai delle esigenze, a parte che la California al proprio interno ha già una lacerazione spaventosa, perché tutta la parte diciamo di IT, quindi tutti i grandi mostri da Facebook a Google eccetera, stanno divorando territorio sia per le loro computer farms sia per la gentrificazione dei quartieri generali eccetera, e continuano a espellere persone. Mi diceva un mio amico che ha vissuto a San Francisco che periodicamente ci torna e che non ci tornava da 5 anni, ha detto che San Francisco è irriconoscibile. Ha detto ci sono homeless da tutte le parti, drogati, gente all'ultimo stadio di fentanyl e quant'altro. La lacerazione secondo me, e questa implosione come l'hai chiamata tu, secondo me è già potentemente in atto. Quello che diceva Maurizio del contributo, in sostanza io la vedo in modo molto semplice, molto banale. Nel momento in cui i super ricchi non pagano le tasse, nel momento in cui le corporation attraverso n numero di giri hanno un'aliquota fiscale ridicola, c'è un ammanco, c'è un deficit fiscale, per cui i soldi per i programmi di sostegno non possono che essere finanziati col debito, perché le entrate fiscali non sono sufficienti. Quindi diciamo questa capacità o necessità di tenere a galla degli interi strati sociali nel momento in cui il sistema fiscale è così iniquo è già di per sé una contraddizione super potente dal mio punto di vista. E siccome poi un mio amico diceva che l'America non è United States of America, è United States of Associations, nel senso che l'americano non ha un vero collagene che lo tiene, se non il dollaro, perché l'importanza della bandiera esibita, sventolata, eccetera? Perché fondamentalmente ti rimetti a dei simboli, perché il tessuto non c'è, perché c'è questa condivisione nel momento in cui... Marco diceva la guerra, la guerra, la guerra. Qualcuno ha scritto l'unico modo per insegnare la geografia agli americani è che loro vadano in guerra, perché sanno dove sono i paesi se li hanno bombardati. A me è bruciata una macchina negli Stati Uniti, e quando il capo pompiere è venuto a dirmi di dovero per mettere giù una nota, gli ho detto sono di Milano in Italia. Ah, lui mi ha detto ma io sono stato molte volte sopra Milano. E ho detto ma perché sei... no, dice, io ero sui B-17 che scanciavano le bombe, però la geografia lui l'ha imparata così. Quindi perché ha detto è una stupidaggine, ma la mia sensazione, avendoci vissuto e avendo tenuto gli occhi aperti, ho stato 6 mesi a Chicago. Chicago è la città per numero di persone, non per percentuale, con la più grande popolazione nera degli Stati Uniti. E lì lo vivi quotidianamente. È una barriera razziale, ma non cambia tantissimo. La barriera razziale è trasversale attraverso le classi, ma fondamentalmente il sogno americano esiste o è esistito solo in funzione di partecipare poi a certi riti comuni e al consumo, e quindi al potere del dollaro. Una volta che la gente sta male, sta peggio, e questi dollari non ci sono, e sei sempre più tagliato fuori dal ciclo del consumo, con qualcuno te la devi prendere. Io sono molto d'accordo con quello che dice lui, cioè per quanto riusciranno a resistere queste consuetudini di convivenza. Non so, il West Virginia, di cui parlano tutti per le miniere di carbone eccetera, è il più grande centro di produzione di ricette di fentanyl di tutti gli Stati Uniti, perché attraverso determinati meccanismi sono state prodotte circa, non so, nello spazio di 3 anni 4 milioni, 5 milioni di ricette di fentanyl che poi sono girate da tutte le parti. West Virginia ha un reddito pro capite probabilmente simile al Ruanda, ecco, una roba del genere. Per cui questi qui poi votano Trump per ovvie ragioni di cui abbiamo parlato. Però io, mentre lui la vede da una visione panoramica dall'alto, io la vedo dal punto di vista del tessuto connettivo sociale, che in America era già a rischio da sempre. Tu parlavi di 12 stati. Se voi andate a vedere le statistiche dei 13 stati che formavano l'Unione, tu dici: ma cosa c'entrano con gli altri? Cosa sono 13? 37, no? 37. Non c'entrano niente. Hanno a livello di scolarità, partecipazione alle elezioni, sistema sanitario, mortalità infantile, durata della vita, eccetera. Dici: ma questa roba qui sembra che l'abbiano trapiantata da un altro pianeta. Sono maggioranza nera governata da bianchi. La guerra di secessione è finita nel 1865. Ditemi voi, cioè, lo dico per la sesta volta, in Texas è diventata legge un anno e mezzo fa, è entrata nel codice penale, è un reato penale dare da mangiare o da bere a coloro che sono in fila per registrarsi a votare. E perché le file sono lunghe? Perché vengono fatte determinate domande e determinati test. A chi sono fatte le domande più difficili, o perlomeno chi ha più difficoltà a rispondere a queste domande, eccetera? Gli stessi sospetti. E quando sono in fila, ai neri non gli dai né da mangiare né da bere, perché sennò ti pigliano e ti portano in galera. Quindi esisteva un tessuto connettivo sociale? Probabilmente no. Andatevi a leggere il libro di Marco Deremo che si chiama I terroni dell'impero. È il resoconto di 3 viaggi che lui ha fatto negli stati del sud proprio profondo, quindi Louisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama, eccetera, eccetera. E il libro è I terroni dell'impero. Lui scrive con grande ironia, umorismo e verve, ma la realtà è una cosa inimmaginabile. Inimmaginabile. Poi, sì, hanno inventato il blues, questa roba che ce la vendiamo, ma è veramente un disastro assoluto, per cui sogno americano per chi l'ha sognato e per gli altri è stato un incubo. No, devo aggiungere a quello che hai detto tu sul problema della disuguaglianza e della tenuta sociale, che in questo momento il rischio è che c'è in corso un conflitto micidiale tra le grandi corporation, la grande finanza, i monopoli che non vogliono pagare le tasse, perché l'America ha lo spazio fiscale per correggere i conti, no? Se vuole, c'ha le più grandi società del mondo che guadagnano tonnellate di soldi, se le vuoi tassare i soldi li tiri su. Perché non puoi fare questa cosa? Perché sennò scende Wall Street, e se scende Wall Street viene a galla tutte quelle cose che vi ho raccontato dei rischi speculativi che sono nascosti nelle pieghe dei bilanci delle grandi banche. E quindi siamo entrati in un conflitto dove, se tu mi tassi, se tu vuoi eliminare i monopoli, se tu intacchi questa roba, la finanza va in crisi. E se la finanza va in crisi, stai attento perché tu salti per aria. Tu presidente, esatto, che vuoi fare sta roba. Allora siamo in questa paradossale impasse dove dovresti fare queste robe qua per correggere tutto il sistema, no? Perché è lì da vedere, no? Basta, perché Apple deve pagare 2% di tasse? Non esiste. Paga il 30% e non rompere le balle. No, non si può. Perché Apple è una delle grandi società, grandissima capitalizzazione, 1 trilione di dollari, che se viene giù, tira giù tutto il mercato. no? Non si può tassare quella roba lì, lo so, ma se tu rimani così per compensare, come dicevi, il fatto che non puoi tassare, devi far sempre debito per tenere in piedi con i sussidi quelli che fanno la fame, e non regge sta roba, non può reggere. Tante domande, ma ne faccio una che è legata a questa questione della coesione sociale. Tu hai parlato di 70 milioni di sussidi. Ora, qui abbiamo fatto un casino della Madonna per 1,5 milioni di beneficiari del cosiddetto reddito di cittadinanza, che è più o meno il 2,5% della popolazione italiana. 70 milioni vuol dire il 22-23%. Sì. Quindi volevo che tu approfondissi un po' questa questione. Sti sussidi a chi vanno, come funzionano? La novità del reddito di cittadinanza era che era il primo sussidio che andava non legato ai precedenti lavorativi. Beh, cioè, se sì, puoi approfondire questo punto. Che... Beh, diciamo che lì i sussidi funzionano, cioè non danno il reddito di cittadinanza. Nella sostanza trovano dei meccanismi dove ti dicono: se tu hai due figli ti do $500 al mese per figlio, se tu hai dei problemi a pagare il Medicare o il Medicaid ti do $250, $500, $1,000. Se tu hai dei problemi a pagare l'affitto vieni qua, paghiamo noi. Cioè non ti danno il reddito di cittadinanza. I singoli stati hanno introdotto tutta una serie di sussidi federali, però, no, che loro gestiscono. Quindi loro dicono, individuano le persone, le famiglie che sono in determinate categorie, e attraverso questi fondi federali canalizzano questi sussidi in questo modo. Sono cominciati a esplodere dopo la crisi del 2008 e nell'arco degli ultimi anni sono continuati a salire e hanno raggiunto 70 milioni di famiglie. 70 milioni di famiglie sono registrate tra coloro che accedono a questi sussidi. Famiglie, unità, household. Quindi 70 milioni, se una famiglia è minimo due, sono 140 milioni di persone che vivono di sussidi. Qui stiamo parlando quindi di un meccanismo che è servito in tutti questi anni di latente crisi della classe media a far galleggiare il sistema. Quando arriva un governo repubblicano e deve tagliare la spesa, quella roba lì non la può toccare, capite? Perché lo stesso Trump ha detto: io non posso tagliare questa roba, non la posso tagliare. Quindi è molto diverso, no? Nel senso che tu hai il sussidio di disoccupazione, quindi chi non lavora ha un sussidio di disoccupazione che dura un po', ma non è eterno. Quindi è impostato all'americana. Quindi trovo dei meccanismi per aiutarti, perché non mi paghi più le bollette della luce, non mi paghi più le rate sul credito, qui viene fuori in casino. Quindi interviene il governo federale. Queste cose però non siamo arrivati al punto che non si possono più rimuovere, non tanto per la tenuta sociale, che sicuramente ci sarebbe, ma perché se tu togli questa roba qua, parte una sfilza di default su tutto il credito che queste persone utilizzano per andare a fare la spesa, per comprare la macchina, per andare all'università ai figli, per pagare le spese mediche. E questa roba qui è un grandissimo problema strutturale ormai, no? Non lo riesci a modificare. Quindi lo stesso Trump dice: attenzione a tagliare sta roba, perché noi abbiamo 800 miliardi di spese di intervento di sussidi sul sistema sanitario per tenere in piedi sta assistenza. Io quella non la voglio tagliare, perché? Perché sa che se la taglia, dove la taglia? Non la taglia mica in California o a New York, la taglia negli stati centrali più poveri dell'America, e quindi sono i suoi elettori, quella non la può tagliare. Quindi ecco, non è un reddito di cittadinanza, sono diversi redditi che entrano in modi diversi di sostegno, che arrivano anche a pagarti l'affitto della casa, no? E siamo arrivati a percentuali incredibili. Cioè questo significa che il sistema capitalistico americano è saltato, capisci? Questo è il punto più importante, che visto da uno come me che fa l'economista o che opera sui mercati finanziari, che vede una roba del genere e vede ma questa è l'America, questo è l'emblema del capitalismo, siamo saltati. Ne abbiamo parlato tante volte e questo è il... Sì, tu avevi scritto il capitalismo è morto. Comunque bene non sa. Comunque è neoliberismo. Quindi il discorso l'abbiamo fatto per esteso e non lo rifaccio perché sono già le 11:15, ma la ricetta è stata applicata in maniera fedele e assolutamente coerente. I risultati sono questi, non c'è da meravigliarsi. Tu privatizzi, demonizzi tutto quello che è l'intervento dello Stato per poi... in sostanza rendere lo Stato ancora più deficitario, ancora più povero. Da una parte deve tenere in ballo il discorso geopolitico mondiale, dall'altra parte sei il paese ricco che contribuisce statisticamente col maggior numero di poveri nel consesso mondiale. Quindi ci sono più poveri, poi c'è la povertà multidimensionale per cui si deve ragionarci sopra, non è così immediato, però fondamentalmente tu sei il paese più ricco con il maggior numero di poveri. Con i maggiori consumi, con i maggiori a debito. A debito. Quindi è un sistema che ha assolutamente messo all'indice tutto quello che è sussidiarietà, aiuto reciproco, la coesione, e abbiamo parlato quel libro molto bello che si chiama Il disfacimento o lo smantellamento del demos, dice proprio questo, e abbiamo parlato di questo linguaggio efficientista, aziendalista, per cui siamo diventati tutti capitale umano, la concorrenza e via dicendo, il risultato è questo. Il risultato è che il tessuto sociale è stato prima demolito a livello filosofico, ideologico e poi demolito dal punto di vista economico. Ma nel momento in cui viene demolito dal punto di vista economico ti sei creato la giustificazione. C'è qualcuno che ha scritto ogni disuguaglianza è frutto ed è giustificata da un'ideologia. La disuguaglianza e la povertà non sono eventi oggettivi, sono eventi soggettivi decisi in nome e per conto di ideologie. E quindi l'ideologia neoliberista di ipercapitalismo, turbocapitalismo, digital capitalismo, tecnofeudalesimo, chiamatemelo come volete, questo è il risultato. Il risultato è che c'è stato un impoverimento dell'uomo nei suoi rapporti con il suo prossimo, che è stato visto non più come qualcuno che ti darà una mano potenzialmente. Ricordate, i giapponesi, di cui lui parlava, hanno un senso fortissimo di collegamento perché vivono una realtà precaria. Maremoti, terremoti, vulcani, tsunami, roba del genere. Per cui tu mi puoi anche stare cordialmente antipatico, ma io so che domani potresti essermi utile e quindi cerchiamo una convivenza. In America cosa succedeva? Go West. A un certo punto, com'è che diceva la pubblicità, c'è qualcuno di troppo fra noi, e pigliavi e andavi nel prossimo, no? Cos'è, carne montana, così era quella roba lì, una roba del genere. E poi fin quando trovavi l'oceano. Quindi già il fatto di essere in qualche modo collegati e solidali non era una roba che... E in più ideologicamente questa cosa è stata bandita, mentre se c'è qualcosa forse che negli Stati Uniti... valeva, era proprio quello, il pioniere che dava. Io ho vissuto negli Stati Uniti, a un certo punto il mio vicino di appartamentino è arrivato, ha bussato con una cassettina di gerani e mi ha detto: senti, io ho finito qua e me ne vado, e magari questa è una cosa che ti rende la giornata. E io ho fatto la stessa roba quando me ne sono andato anch'io, ma a livello di top down, quindi di visione istituzionale, di visione della narrazione prevalente del dominio americano, questa roba qui non esiste più. Esiste solo un discorso basato sulla forza. Trump, ce lo vendono come un uomo da corporation, da carriera multinazionale, lui non lo è mai stato. Lui è un affarista figlio di affaristi, nipote di affaristi, un bandito. Per cui non venite a raccontarci a Corporate America, ma adesso in una corporation, per quanto marcia possa essere, pigliava 47 calci nel culo e faceva tutta la scala all'ingiù. Questo è sempre stato ai margini, è sempre stato borderline, per non... Per cui la sua visione dell'America è una visione accaparatrice. Io cerco di fottere lui e è un gioco sempre comunque a somma zero. L'importante è che io sia la parte del più e lui sia la parte del meno. Per cui, altro che implosione e sfilacciamento, è un disastro totale. No, l'ultima cosa, perché qualcuno che poi adesso è appena andato via, cioè mi aveva adombrato una specie di domanda che io adesso la metto lì così perché la collego molto alla richiesta che aveva fatto lui di ampliare un tema rispetto ai problemi dei territori eccetera eccetera, ed è io la metterei in questo modo: mentre negli Stati Uniti c'è una lobby ebraica che conta, in Israele non c'è una lobby americana. Questo fatto quanto incida poi in tutto il meccanismo che abbiamo raccontato oggi e che poi abbiamo come fine Gaza. Però lo potremmo mettere insieme a quello che diceva lui. Questa è una, cioè qui ci vorrebbe una serata solo per questa roba. Però secondo me c'entra con la questione che adombrava lui, territori, annessioni. Allora qui ci sono due aspetti. Allora c'è il discorso del capitale, c'è un noto economista americano che si chiama Russell Napier che parla già da diverso tempo di rischio di controllo dei capitali in un mondo così, e cioè che la libera circolazione dei capitali rischia di finire, perché tutti in un mondo con il debito che non può scendere, perché non puoi fare politiche fiscali restrittive, perché sennò qua andiamo in una recessione, saltiamo tutti per aria. In una situazione così tutti devono cercare di tenersi i soldi il più possibile in casa, e questo non è visto bene dall'America, no? Perché come vi ho raccontato invece ha bisogno dei nostri risparmi per stare in piedi, e questo è un punto dove si rischia di arrivare sicuramente a un'ipotesi di questo tipo. Invece sulla parte dei territori, Groenlandia, Canada, 51 Stato americano, Gaza, queste robe qua. Allora, sulla Groenlandia c'è un problema sicuramente in cui gli americani hanno ragione sulla Groenlandia, perché in Groenlandia ci sono, cioè una base americana e tre basi, adesso non mi ricordo se due o tre basi cinesi. Sono basi scientifiche, però ma probabilmente anche quelle cinesi. Quindi bisogna stare attenti, perché ovviamente gli americani dicono: qui con la situazione geopolitica che si sta delineando, noi vogliamo che i cinesi fuori dalla Groenlandia. Groenlandia deve essere sotto il controllo occidentale. E quindi stanno mandando questi segnali, come dire, butta fuori i cinesi, se no arriviamo noi. Cioè non stanno dicendo invadiamo la Groenlandia, però ti stanno dicendo: guarda che stando così le cose, Cina alleata con la Russia, al fronte del male, Nord Corea, cioè, cerchiamo quella roba lì di avere il controllo noi. Quindi vediamo di risolvere questa cosa. Sul problema di Gaza, lì gli americani c'entrano, cioè c'entrano nel senso che appoggiano la politica di Israele, però lì ci sono delle cose che ci sono in certi documenti che ho visto citati da questo economista americano, che effettivamente lì c'è un piano. Cioè non è quello che sta succedendo, è una roba che si inventa al mattino. Tutte le guerre degli Stati Uniti che riguardano Medio Oriente sono guerre di Israele. Cioè uno dice l'America agisce in nome per conto del, lui è ebreo, Jeffrey Sachs è ebreo di famiglia, famiglia ebrea, sposato con un'ebrea, eccetera. E lui dice: voi non avete idea di cosa sia l'influenza della lobby ebraica negli Stati Uniti. E tutte queste guerre sono state guerre che io chiamo le guerre di Netanyahu, combattute dagli Stati Uniti per conto. Il ragionamento è questo, cioè se tu leggi alcuni documenti scritti dal governo Netanyahu, diciamo dagli esponenti politici del governo Netanyahu molti anni fa, loro erano contro gli accordi di Abramo, contro la politica dei due Stati, anche gli accordi firmati sotto la presidenza Obama, cioè loro dicono, sostanzialmente dicono questo: noi viviamo in uno stato d'assedio, abbiamo solo nemici intorno, è inutile che facciamo accordi di non belligeranza con gente che comunque per noi è un nemico, una minaccia, perché questi accordi nella realtà non risolvono il problema. E in ogni caso ci ritroviamo ad avere gli Hezbollah sopra la testa, i palestinesi Hamas vicino a casa, per cui loro vanno direttamente al problema e dicono: bisogna sradicare i nemici di Israele, quindi tutti quelli che non sono nostri amici vanno ripuliti. Questa è la politica. Quindi noi non sappiamo se gli interventi di Hamas sono stati in qualche modo, sapevano che ci poteva essere un attentato e quindi magari hanno lasciato che accadesse per avere un casus belli, non lo sapremo mai, però la politica che oggi guida questa operazione militare è mirata a ripulire completamente tutto quello che intorno a Israele può essere una minaccia. E gli americani, in questo momento c'è un governo americano che appoggia questa cosa, quindi non c'è più nessuno che riesce a frenarlo. Gli israeliani in questo momento considerano gli unici loro alleati in quella zona la Giordania e la Turchia, per cui loro già anni fa dicevano che la Siria doveva essere eliminata, che il governo in Iraq non gli andava bene perché comunque l'Iraq era diviso in due, una parte era filo iraniana e quella roba lì non era accettabile. Sull'Iran spingono oramai per un abbattimento, diciamo, del regime iraniano, e quindi ci sono dei documenti su siti, su think tank americani, che fanno capire che accordi imminenti sul programma nucleare iraniano non verranno raggiunti. Quindi anche lì, insomma, se uno legge quelle cose dice: ma allora qui c'è scritto sostanzialmente che tu entro 3 mesi bombardi l'Iran. Quindi adesso hanno montato questa ipotesi di trattative, no? Hanno detto: facciamo delle trattative, venite qua. Allora, voi avete un programma nucleare, benissimo, noi vogliamo che lo eliminate. Cioè non stanno dicendo: potete fare arricchimento dell'uranio solo per scopi civili. Loro dicono: no, voi non dovete farlo. Mentre prima i precedenti accordi erano che potevi farlo per scopi civili ma non militari. Il problema è che l'amministrazione Trump, la CIA, il Pentagono e gli israeliani dicono: eh no, però se tu mi arricchisci l'uranio per scopi civili, in 5 minuti me lo usi anche per scopi militari, quindi tu devi proprio eliminare sta roba. E qui loro dicono già: non troveremo un accordo. E quindi ci sono solo due possibilità: o trovi un accordo o ti bombardo. E siccome mi dici già che l'accordo non lo trovi, ergo lo bombardi sto. Quindi anche qui si stanno preparando i presupposti per completare, diciamo così, il piano israeliano nell'area di eliminare tutto. Cioè loro non vogliono uno Stato palestinese, non lo vogliono. E fino a quando gli equilibri... No, non vogliono proprio i palestinesi. non vogliono, cioè loro, fino a quando gli equilibri geopolitici sono questi qua e c'è un governo repubblicano negli Stati Uniti e un governo Netanyahu in Israele, chi parla di trattati, cessate il fuoco e parla di pace è una persona che vive di illusioni, perché c'è una strategia estremamente chiara, già scritta, tanto quanto il piano economico del governo americano. È scritto, cioè se c'è scritto così e quello che ha scritto quella roba lì è al governo, la fa. Non sei d'accordo? Non mi interessa. La fa. Che tu sia d'accordo, che non sia d'accordo, non mi interessa se io non sono d'accordo. A me interessa sapere che cosa vuol fare sta gente, capite? Cioè qui non è il caso di essere d'accordo, certo che non siamo d'accordo che ammazzano centinaia di bambini alla settimana, nessuno è d'accordo, ma se lì c'è scritto che questi fanno queste cose con uno scopo preciso, purtroppo lo fanno e non abbiamo nessuna possibilità di fermare nulla del genere in questo momento. Purtroppo la situazione realistica è questa. Poi ci illudono le televisioni, i telegiornali, che c'è una tregua, trattano tutte palle. Quelle sono tregue tattiche che servono a ricostruire meccanismi bellici per riordinare l'esercito, ripreparare l'invasione. Cioè non servono a un cessate il fuoco, no? E quindi è una situazione veramente... Cioè il mondo, secondo me, sia da un punto di... da un punto di vista economico che da un punto di vista geopolitico è entrato in una fase che non può essere interrotta in breve tempo, perché si sono innescati dei meccanismi talmente complicati, intrecciati in un modo impossibile da risolvere, che possiamo entrare in una situazione di instabilità di lungo termine che può durare 10 anni. Io lo vedo da un punto di vista economico, ok, questo prevalentemente, però anche geopolitico è una conseguenza, no? Quando tu cominci a star male economicamente, la gente impone scelte politiche dove ci sono svolte autoritarie o comunque appoggia certe cose. Perché quando tu cominci a star male succedono delle cose che tu ritenevi che magari non potevano succedere, cioè il problema è questo, e non sono, ripeto, cose transitorie. Non pensate che noi stiamo vivendo una roba che sì, ma dura 6 mesi, adesso poi dopo tra quest'estate finisce tutto. No, è cambiato il mondo, ve lo volete mettere in testa? È quello che sto cercando di trasmettere anche a chi lavora sui mercati finanziari. Non si entra e si esce dalle guerre commerciali senza danni. Non si entra e si esce da guerre che distruggono interi paesi senza danni. Non si esce così. Una settimana è finito, oh che bello, adesso c'è... No, non è così, non funziona così il mondo. Quando tu intacchi la global value chain e la struttura industriale mondiale che è stata costruita in 25 anni... e tocchi quella roba lì, entri in 25 anni di casino, capito? Perché se tu dici alla Stellantis o a BMW o a Volkswagen che deve rivedere tutta la catena produttiva che è in giro per il mondo, quanti anni ci impieghi a metterla a posto quella roba lì? Ci ha impiegato 25 anni a costruirlo, questo assetto economico commerciale. Adesso lo distruggiamo? Ma per farne un altro non ci impieghi una settimana, È un casino, Sì, ma è come che Trump vorrebbe mettere in piedi l'industria. No, è impossibile. Oltre. Ma anche quella è una palla. Sì. Comunque, come si dice, l'ora è tarda e i naviganti devono ancora navigare. Niente, dai, ci... La prossima puntata, dai.